fiave mormorava calma e placida al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notte i panni, la sera bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, son messe lieve le tribù di arte l'onde. Perché lo sport, ragazzi, è sempre un messaggio edificante, ci porta sempre messaggi di pace, di unificazione e di tutto quello che vogliamo dire di più buono del genere umano. Ma a noi, quando c'è l'Austria, ci ricorda sempre la Prima Guerra Mondiale. Il pallone rotondo, io corro dietro al pallone per quasi un milione o forse di più. Io sogno sempre il gol, sogno sempre il gol, però faccio il portiere. E carissimi amici di Rantemail Radio, come al solito mi impappino perché l'ictus d'estate non fa mai assolutamente tanto bene. Cari amici di Rantemail Radio, dicevo, benvenuti alla nuova occasione per stare insieme qui a Euroludica 2021 con questo meraviglioso appuntamento che abbiamo con gli ottavi di finale del campionato europeo Euro 2021, che sarebbe Euro 2020 in realtà, Italia-Austria. Ma per parlare di questo meraviglioso evento, per stare insieme, fare la cronaca della partita e parlare di argomenti collaterali, c'è Marco Gualdi. Grazie, grazie, anche io sono qui agli ottavi di finale, pensavo di essere rimasto ai quarti, invece mi sono ritrovato no, ai quarti sì, dopo, se vai avanti stai ai quarti. Cazzo, allora sono andato troppo avanti. Sì. Vabbè, allora mi fermo un secondo agli ottavi e poi magari andiamo avanti, speriamo di andare avanti. L'ospite di questa sera, Walter Sbano. Buonasera ragazzi, grazie di avermi dato modo di partecipare a questa puntata e di lanciare la petizione che voi ancora non sapete, però sono entrato nel mood e quindi per favore fatelo anche voi, aderite alla petizione per sostituire il commissario tecnico della nazionale Mancini con Destro. Con Destro, perché? Bravo! Così, vabbè. Perché Mancini con Destro. Tra l'altro questa settimana non c'è stato il sondaggio, mi sono scordato di fare il sondaggio. Tanto era chi ci rodove, tranquillo. Ok, no, non afferro, purtroppo, attenzione. Fatelo spiego. Michele Paola! Salve a tutti, dopo essere stata trattata male per circa 20 minuti da Simone Pizzi. Finalmente possiamo trattarla male tutti. Scusa, Sbano, dato che lei l'ha trattata. Gli do una pizza che poi me la ridai. Gli giri bene il microfono. Sì, un attimo. Probabilmente. Gli giri bene il microfono. Come me funzionava, ma funzionava. Ma tu te muovi. Io non mi sono mossa. Le stupide creature. Ciao amici. Come state, stupide creature? Come inverno. Ok. Senti, chi c'è lì con te? Marco Bianchi. Allora, abbiamo qua con noi Mauro delle stupide creature, io delle stupide creature e Ilaria. Così, tanto per, giustamente, no? E abbiamo anche Francesco Lobby Frontali di Muro. Bravo, continua ad annunciarmi così. No, Vicenza, tranquillo, sì, poi ti faccio vedere bene. Cosa? Cosa? Comunque ci rifaremo quando faremo Euroludica Eurocalcio 2022. Che succederà? No, lo rifaremo, no, scusa, l'anno prossimo lo rifacciamo di nuovo agli europei dell'anno prossimo, no? Guarda, io devo dire che questa l'anno trasmissione l'anno prossimo ci dovrebbero stare i mondiali. No, gli europei, sì. No, gli europei tutto il mondo però. Gli europei però esatto, aperti a tutto di il tutte mondo. Le europee del mondo. È un europeo allargato quello che infatti, si fa. Che tra l'altro già è stato presentato l'inno degli europei del prossimo anno, giusto Marco Bianchi? Sì, sì, è già stato presentato. Noi abbiamo una versione in anteprima, ovviamente è senza l'arrangiamento, senza la registrazione ufficiale, però noi siamo riusciti a carpire una parte del brano e ve lo facciamo ascoltare subito. Questo purtroppo è solo l'inizio, però poi continua. Vabbè, già qualcosa, c'è sempre sì. Uno spunto di partenza, no? Dal quale anche sì, se noi lo troviamo veramente molto originale. Anche se mi ricordava qualcosa, tutto sommato. Ma è un po' così, perché poi le note sono sette. Io non so perché a me evoca dei traumi infantili, infatti, cose a cui ho partecipato. Non so. Te sposa! No, ecco, no, non credo. Cioè, e vabbè. Andiamo a giocare. Allora, voi sapete che questo programma è un programma basato, insomma, sullo sport, sulla telecronaca sportiva, sul seguire l'Italia, ma tendenzialmente lo facciamo in maniera estremamente ironica, e la nostra idea è quella di non parlare di argomenti seri. Però è successa una cosa della quale non parleremo, chiaramente, però forse ne parleremo dopo, magari con un collegamento, insomma. Però voglio dedicare questo momento musicale, che indica, come posso dire, non indica di per sé il silenzio, che è la musica che stiamo per sentire, ma è proprio il silenzio, è quando si spegne tutto, insomma. E questo lo dedico agli Azzurri, che questa sera se meritano il silenzio, che non parte, quindi bravissimo. Allora, come fai il silenzio, Marco Bianchi? Tutti zitti. Devi chiedere a John Cage. 4:33. Bravo. Bravo. Bene, bene. Vabbè, niente, lo volevo mettere, ma non so perché l'asset non parte, quindi il file sarà corrotto o qualcosa del genere, insomma. Sono bellissimi momenti. Allora, ragazzi, Italia-Austria. L'Italia viene, insomma, da 3 vittorie consecutive, 7 gol segnati, nessuno subito. L'Austria si è qualificata così, poppe per chiappa. Ah, paura, io ho paura di queste cose. Infatti sì, non si sa mai, perché è come noi che partivamo, che non eravamo favoriti, siamo arrivati fino a qua, questi erano ancora meno favoriti, e sai che a volte potrebbero arrivare fino a là, speriamo. Esatto, no. Esatto. Sentiamo da Michela la formazione dell'Austria. Eichwein, Polizei, Dreyfus, Brigadier. No, quelle no, quelli sono tedeschi, però. Ve la dico io. Allora, c'è Van Daust, Van Dinam, Van Schotz, Van Taur, Schwarz, Van Tos, Van Kal, Van Tina e Van Oir. Quanti sono? Però questi sono olandesi. No, no, anche tedeschi. Ok, però secondo me ti sei scordato Schwarzberg. Ah no, scusate, era Von. Scusate, Fontaine, Vabbè, dai, ok. E Vesbano ci dice la formazione dell'Italia. Dunque, abbiamo Zoff, Gentile, Cabrini. Gentile, Cabrini, Causio, Ala Dumbo, se non sbaglio. Provo a sbagliarmi, magari sta in panchina. Può darsi, non lo so, entra nel secondo tempo a seconda. Ok, questa partita si svolgerà a Wembley, giusto, caro Marco Bianchi e compari e soci, che si trova in Romania, esatto, infatti, esatto. E dove ovviamente hanno un problema, insomma, con un picco dei contagi della variante 21, esatto. E praticamente quindi si gioca a porte chiuse, giusto? Sì, volevano lasciare aperta la finestra, ma hanno paura del virus. Virus, ok, no, vabbè, benissimo. Allora, io direi, però noi vediamo che ci sono dei tifosi sugli spalti, quindi pur essendo a porte chiuse, ma non totalmente. Com'è possibile che dei tifosi siano entrati negli, diciamo, negli spalti? Quindi questa sta secondo, guarda, visto c'ho le zinne, guarda, visto secondo le stupide creature. Che altro, ragazzi, prima hanno inquadrato Mancini. Scusate, vai. Dalla finestra. Esatto. Che però era chiusa, quindi hanno ma c'è più di una finestra, e questo è il problema. Ah, sì, come il Colosseo. Ok, e invece Francesco, la terna arbitrale. La terna arbitrale. E poi non è più terna. Padre, figlio, Spirito Santo. Santo, infatti, vedi, però è sbagliato, perché non è più una terna arbitrale. Sono 4 adesso gli arbitri, più VAR e AVAR. Bravo. Guarda che bravo. Mica giochiamo con la Scozia. Bravo. Mamma mia, hai fatto una battuta. Io non l'ho capito. È venuta la simpatia. Bravo. Ma chi ha fatto? Non ha capito quella di Mancini e destro. Ancora non è arrivata. Infatti volevo dire Mancini e destro. Bravo. E intanto c'è l'inno dell'Italia. Dovete scusarci. bravissimo Inno. Che stavi dicendo qua? Stavo dicendo che se noi arriviamo dopo le battute, perché siamo, come già abbiamo visto, siamo colti da un ritardo, quindi esatto, è normale. Cioè, esatto, c'è il problema di streaming. Esatto, poi streaming. Voi sapete che durante questa settimana, nel pre-partita praticamente, c'è stato un botta e risposta tra l'allenatore italiano Mancini e l'allenatore austriaco che si chiama Schwanstuck. Che praticamente l'allenatore austriaco ha detto: l'Italia dovrà pur perdere. E Mancini ha risposto: eppur si muove, cose del genere. E allora, siccome c'è stata questa polemica, praticamente è andato Vialli a salutare l'allenatore dell'Austria e non Mancini. Cioè, questa è una scena che ci ha lasciato un po' interdetti, diciamo così. Comunque, adesso ci sentiamo anche l'inno della, come si chiama? L'Austria, giusto? Spero che ci sia andato anche Mancini. Non lo so, non lo sappiamo. Adesso rispettiamo l'inno, che non parte neanche questo. Sono belle cose stasera. Complimenti, vabbè. No, lo possiamo fare noi l'inno. Esatto. Speriamo che funzionino almeno gli altri assets, perché sennò sarebbe veramente un dramma. Comunque, forse ho capito quale potrebbe essere il problema. Hai rotto il cavo. Però, no, non lo so. Ma hai rotto il cavo. Vabbè, andiamo alle stupide creature e ci fanno l'inno austriaco. Essere bravi in sport invernali. E noi vincere questa sera a pallone. Austria! Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Tra l'altro c'è nella formazione austriaca un austriaco proprio da sette generazioni, abbiamo visto. Sì, sì, Van Buten. Van Buten, diciamo che gli austriaci... ragazzi, perché ridete? Cioè, è un grandissimo giocatore. Come direbbe Berlusconi, abbronzato. Leggermente abbronzato. Stanno cantando con lo stesso entusiasmo con cui noi italiani cantiamo il nostro inno. Quindi, beh, diciamo che gli austriaci non. Io ci sono stato diverse volte a Vienna e devo dire, non nascono con lo spirito. Non sprizza l'entusiasmo, esatto, vero? Sono so gente così, un po' se la prende. Ma tra l'altro, sempre l'inculata. Comunque, abbiamo visto che non dobbiamo parlare di quella cosa, non ne parliamo. Di quale cosa? Della cosa. Ma è successo? No, aspetta, adesso. No, già l'ho fatto. No. È successo? Io comunque vorrei dedicare la puntata. Però ti devo dire che, cioè, mentre che gli austriaci sono rimasti in piedi. Bonucci lo vedo perplesso. Beh. Ma è dopo, non durante l'inno, vediamo. Si espongono in campo. Tutto dipenderà dall'Austria. Esatto, adesso vediamo quello che succede. Da quello che fa l'Austria. È strano perché in Austria dicono che tutto dipenderà dall'Italia. Esatto. E alla fine sarà colpa di qualcuno. Sarà sempre colpa di qualcuno. Ricordiamocela questa cosa. Nostra. E Michele, invece tu volevi ricordare un compleanno. No, allora, a parte voglio fare gli auguri ad Alex Racuglia. Bravo! Anche tu quest'anno non sei stato portato via col Covid. Bravo, complimenti. Siamo contenti. Oggi festeggia 8 anni, non sappiamo quanti, speriamo. Bastava non dirlo, cioè. Festeggia gli anni. Ok. Un anno più dell'anno scorso. L'Italia ha fatto gol. Ma no, stanno che... ancora a cantare l'inno. No, in realtà vabbè. Posso? Finisci, prego. Ok. No, volevo dedicare questa puntata al mio fantastico bisnonno, che era un tipo stupendo, cioè veramente era austriaco. Un uomo fantastico che ha combattuto contro l'Austria nella prima guerra mondiale. E che... Ma lo sai che avremo storie della prima guerra mondiale. Esatto. Però vabbè, poi ne riparleremo. E quindi vabbè, mi ha riempito di storie per tutta la mia, diciamo così, infanzia e adolescenza, e lo ricordo con grande piacere. E quindi lo saluto. Anche mio nonno mi ha raccontato tantissime storie di guerra fino a che non è morto. Però il problema è che è morto in guerra. Quindi bellissima questa. No, la cosa inquietante è che tu sei abbastanza vecchio per ricordartelo. Esatto. Anche lui è morto in guerra. Esatto. Ma quello che tu non hai afferrato è che mio nonno continua a raccontarmi la storia di guerra. Ma fatte dai numeri del lotto. Esatto. Non ci avevamo dubbi. Esatto. Ma infatti è quello che poi fissano i gatti. Guarda, la sera. Se è il nonno quello non buono, cioè quello che porta la stirpe. No, se è quello quando ci andava in guerra. Che porta la stirpe sbagliata, sono sicura che ti dà tutti i numeri a la casaccio. Stirpe sbagliata. Pensa che il mio nonno nonno quello sbagliato era invalido quando ancora non esisteva neanche il concetto di Simo, te devi giocare 95, ha capito? 95. A me se mio nonno mi parla così, cioè come minimo moro d'infarto del terrore proprio. In generale se tuo nonno te parla adesso un dubbio mo farei venire lo parla stesso. Piano, mi parla piano, mi dà dei segnali tipo col K2, capito? Pasta e fagioli è sempre presente. Comunque Gualdi, l'animale che prevede il risultato della partita. Allora andiamo a presentare la nostra bellissima Andromaca la lumaca. Eccola, senti. No, non applaudire, se non si sente il cazzo. Senti, non si sente niente. Pizzi, ma che hai fatto? Siamo sicuri che è viva? No, eccola, eccola, si sente adesso. Eccolo, sì. Si sente poco, ma si sente perché avevo il cursore abbassato. Forse era per quello che non si sentiva niente. Pensa che figura di merda. Comunque, per fortuna che Andromaca, la nostra lumaca, ci fa sentire come si muove. Sta andando verso la scatola nella quale verrà rinchiusa fra qualche minuto e verrà messa in questo stato quantistico. La scatola quantistica, infatti, conserverà uno status quantistico all'interno. Cioè, che per dire praticamente che non sapremo che cazzo succede all'interno, perché essendo un animale un pochino lento, cioè non può fare una previsione così smart, vero? Quindi praticamente abbiamo messo alcuni fili d'erba colorati. Ok. In base a quanti ne mangerà a fine partita capiremo chi ha vinto. In realtà noi lo sapremo, però la lumaca dentro questa scatola quantistica non sa che cosa succede. Noi al massimo abbiamo messo un microfono dentro la scatola quantistica. Quindi noi, dove si sentirà che mangia. Esatto, anche se però per la fisica quantistica assistere comunque all'esperimento lo modifica. Quindi lo modifica, è vero. In qualche po' interferiremo, però questa lumaca in questa scatola quantistica farà la sua previsione. Noi a fine puntata vedremo se ci ha azzeccato. Ragazzi, scusate, la partita è iniziata e si sono inginocchiati tutti col cazzo, lo volevo solo dire. Giusto. Ma fatto quello anche in un altro modo. Fermo restando che non è che è morto qualcuno, eh? Cioè a parte che è morto veramente. Cioè è morto qualcuno, però... Non è una questione politica, sia chiaro, ma un gesto è un messaggio, no? Quindi quando muore così la dignità di un gruppo di persone è sempre triste. Però era troppo bella sta favola dell'Italia, insomma, quindi va bene. Prego Francesco, scusa, ti ho disturbato. Sì, praticamente quando noi siamo entrati in diretta, contemporaneamente hanno intervistato Chiellini, dopo gli mando il video, e che praticamente gli hanno chiesto che farete, inginocchierete, e lui ha detto, boh, non ce l'hanno richiesto, eccetera eccetera, e comunque troveremo altri modi di combattere il nazismo. Così davvero ha detto così? Giusto, sì. grande manderemo i nazi schierati, cioè lui è andato proprio Euro Music Contest, il file, no? Lo riesce a mettere in onda, te lo passo subito, prova a mandarlo. Sì, beh, sì. Nazisti, io la odio questa gente, mi sembra che abbia eccoci questa sera collegati con la partita Austria Italia. Sono passati pochi minuti di gioco, ma ci sono già dei morti, sì. Il primo ammonito abbiamo nell'Austria, Arnukovic, Marco. E basta chiamare fallo il fallo, specialmente se è duro e da dietro. È discriminante. Bisognerebbe chiamarlo irregolarità. Irregolarità. Hai ragione. Intanto Michela ci saluta quelli che stanno in chat, giusto Michela? C'è qualcuno? Allora, in chat mi sembra che c'era Melanie che diceva che non ce l'avrebbe fatta. No, poverina, no, anche lei. Povera, non ce l'ha fatta. No, non ce la farà ad arrivare in tempo. Salutiamo qualcuno a casa sua. A rianimarla. Se qualcuno ha un fibrillatore in più, lo porti con sé, vadi a casa di Melanie, resta con noi. A posto, ok. Francesco, dove me l'hai mandato il file? Giusto perché sì, su Eurocalcio. Allora, intanto finisco di salutare perché Gian è entrato nel gruppo, quindi può darsi che Gian ci sta ascoltando. Salutiamo. Ciao Gian, ciao. Fare il timido e salutaci. In compenso è uscito John Frusciante. Fermi tutti, che c'è la presentazione ufficiale delle stupide creature. Prego, stupide creature. Sapete che era finita. Anche Gian si è sentito, non è stato tanto bene Gian, insomma. Anche lui. Dopodiché salutiamo Girasole. Salutiamo Girasole. Ciao bene. Girasole. Ciao. Sempre che arriva. Ciao. E a 9000 E niente, vede che il Galles non ha fatto sfigurare il nostro girone, e quindi Roberto Tomaiolo pure, no, no, scusate, ho sbagliato, e Anna Mimila che ci condivide anche, no, chi è che ci ha condiviso? Roberto ci ha condiviso questa foto, o Thomas Anderson. C'è sempre qualcuno che si maschera con nomi nuovi e che mi confonde. Thomas Anderson che ha praticamente ha risposto un coso. Quando di capiterà di... qualche richiesta dagli altri squadri, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l'altra squadra, e poi cercheremo sicuramente di combattere il nazismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla federazione nei prossimi mesi. Ultima, si combatte con i fucili. Il nazismo. Deve aver visto Bastardi senza gloria ieri sera. Il nazismo e l'ignoranza. Ma perché siamo qua? Beh, siccome sono Bastardi senza ginocchiarsi. Infatti, cioè, è una cosa un po' triste. Cioè, il nazismo. Niente, la voglia di neanche vederla la partita. Comunque, vabbè, boh, adesso non esageriamo. No, cioè, sempre... Davvero, per me, posso fare un ennesimo come se ce ne fosse bisogno. Applauso alle stupide creature che in 30 secondi della sigla hanno enucleato proprio tutto il sentore del calcio, cioè il pallone rotondo. Grazie, cioè, troppo gentile. Ecco, quello è, cioè, 90%. Però ti devo dire la verità, io Mauro che canta il pallone rotondo non l'ho sentito, gli stai dando il mongoloide. E poi non mi ricordo le parole. Corro dietro al pallone per quasi un milione, forse di più. Sogno sempre il gol. Non lo sa nessuno. Sogno sempre il gol, però faccio il portiere. Capolavoro assoluto. Il pallone rotondo. Io corro dietro al pallone. Vai, Miguel. Un milione, o forse di più. Io sogno sempre il gol. Sogno sempre il gol. Però faccio il portiere. Sono questi momenti di calcio. La sigla più bella dei programmi radio in giro, cioè della galassia. Della galassia. Tanto vedo che vedo che lo spirito di Italia-Austria, insomma, quella su al confine delle Alpi è lo stesso, insomma, perché vedo che semenano, quindi vabbè, dai. Quindi non passa lo straniero. Comunque, ragazzi, a proposito di fair play, io volevo spezzare una lancia per Insigne, che si è inginocchiato ma non se ne è accorto nessuno. Beh, perché ma davvero? Che è una battuta che detta da me non si dovrebbe. Ma nessuno se n'è accorto. Ma se nessuno ti vede inginocchiarti, per la fisica quantistica non ti sei inginocchiato. Insigne. E comunque lo spirito in campo vedo che veramente. Intanto Insigne ha cercato di uccidere il portiere. Sì, esatto, vedo che ci si disprezzano. Lo sport questa sera vedo che trionferà e sarà veramente. Una scena da Oli e Benji, ma... perché si è lanciato in tackle, ma la palla stava 3 metri più avanti. In realtà l'ha preso le culo. Fine, infatti, dai, lui, cioè, ha provato a non prenderlo, sì, perché sì, vedi, alza le gambe. È chiaro, insomma, a cercare. Quindi, insomma, questa cosa, il fatto che sia stato toccato del culo, il portiere non l'ha presa bene. Insomma. Vabbè, dai, facciamo una piccola. Semplicemente. Prego. No, scusate, io credo semplicemente che l'esperienza insigna. Insigna. Io chiederei un po' di acqua a chi è. L'andiamo a prendere, perché facciamo una piccolissima pausa musicale. Dai, invece. nasce libero, è come una scimmia, ma come lo peli si affaccia alla vita come monocellulare, adesso ha due smartphone. È stato girino. Divento pesce. Crebbero le gambine. Divenendo un anfibio. E adesso le timberla. Attualmente al 22% salirà. Non mi piace che corri via, ma a voi cosa ve ne importa? Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la realtà. Che tu rifiuti il mio cielo è una cosa molto grave. Quando luchiamo por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Capire la genesi. Il pezzo è meraviglioso, tutto progressivo, tutto quanto, però insomma dopo aspetta mica, se tu mi dai il tempo di aprire i microfoni forse riusciamo, però insomma mi tocca violarlo questo pezzo, perché prima che lui violi noi, no, nel senso che alla fine è finita la partita, insomma. Giusto, ma per violarlo bisognerebbe aggiungerci una viola esatto, invece è soltanto soltanto? Che c'è sta? Che strumenti ci sono? A parte il cane, nel pezzo? Sì, nel pezzo. Beh, c'è il vibrafono, c'è la chitarra, c'è il pianoforte, basso, batteria e poi voci sopraffine. Sopraffine. Tra l'altro ce n'è lì una voce sopraffina, giusto? Sì, c'è la grande Ilaria. Grande Ilaria, che l'altra settimana ci è rimasto male il dottor Pippo Campo perché alla fine non gliel'hai più fatta la domanda. Accidenti. Farò perdonare. Ma chissà, forse questa settimana potrebbe esserci la possibilità di rifarla questa domanda, certo. A ricordarsela. Certo. Soprattutto però quando parlate, giratevi dall'altra parte del microfono, così funziona da decenni anche qua, insomma. Walter, che è successo a sta partita fino adesso? Ma guarda, qualche contropiede ce lo siamo anche gustato, però non abbiamo finalizzato, quindi non si quagliarella ancora. Ma si menano? Ma neanche troppo, dai, devo dire che finora è solo iniziata un po' violenta, poi dopo si sono tranquillizzati. Sì, ma perché non si erano capiti, poi si sono qualificati tra di loro, si sono riconosciuti. No, non so, tutti a sbuzzici, non so, capito? Perché, cioè, ma che fa, ma se inginocchiamo non si inginocchiamo, quindi non si erano ben capiti, quindi però tanto, adesso prendo, guardi, all'insaputa della lumaca, guardi, io farei un collegamento. Ma certo, deve essere sempre all'insaputa, sennò sentiamo che cosa fa in questo momento, sta mangiando, vediamo. Sembra che sente poco, ma senti, si sente un pochino, molto poco. Sì. Si sta dando da fare. Quindi c'è un gol. Questo è importante, che c'è un gol, perché per mangiarsi tutta quanta. Okay. Però per la fine della partita ci riusciamo a sapere il risultato. Sì. No, alla fine della partita apriamo. Prima della fine della partita, perché insomma ha il secondo esatto. No, è quantistico. Quindi non possa. Cioè, è quantistico sia dentro che fuori. La scatola quantistica funziona così. Quantistica. Infatti c'è sempre quella famosa canzone delle Stupide Creature, si chiama Quantistica. Quantistica. Sì, faceva così. La zia Luisa, quantistica, lei ha studiato la dietetica, ma sbaglia sempre gli abbinamenti. Quando la betta rimane fra i denti, lei sorride e ti fa un po' senso. Quantistica, quantistica, zia Luisa, quantistica. Abbinamenti poco indicati, ingerisce pochi liquidi, fa la pupù molto dura. Estetica. Bellissima canzone, a parte insomma il cane che non è ma madre di Dios, ci siamo andati vicini stavolta. Esatto, il cane andava a tempo, ha ragione. Francesco, che ci racconti? Allora, mi sto divertendo a leggere tutti gli striscioni pubblicitari. World Fist Present, World ora domina World Fist, cioè vuol dire First, del no, mondo, Fist, Fist no, anche, sì, quella è una categoria degli U-Board. Booking World Fist, e qua c'è subito un fatto booking, tutte quelle cose colorate, quindi ci sono, cioè, c'è una discriminazione che sta dicendo che comunque sì, chi è LGBTQQ pensa solo a Fist, a bucchine, solo le cose perverse. I bucchini sono cose perverse. Oh, che esci da questo corpo. Prego, Francesco. Mo FedEx, vabbè, questa, guardate, queste sono tutte robe che ha pagato FedEx, e questi sono tutti i suoi messaggi subliminali, cioè tutta roba. In realtà ha pagato Chiara Ferragni, perché tra i due quella che c'ha i soldi è lei, eh. Sì, però comunque lui, quello che si espone è lui, sempre in modo però diciamo non palese, perché cioè erano, cioè, questi tre indizi, prima fisting là, poi i booking, poi Fed, quindi è tutta roba, insomma, ho capito, quindi, cioè, quindi è, non capisco, è massonica sta cosa, sì, massonica, non capisco come si dice Gaz Prom in tutto questo, però forse Gaz Prom, forse no, quello secondo me l'hanno messa così per rendere depistante, tutto casuale, attenzione, contro piedone dell'Austria, e a momenti segnano. Senti, a momenti segna l'Austria, comunque, mentre tu dicevi questa cosa. Comunque, vabbè, massonica. Tra l'altro c'era un famoso detto popolare che diceva: Chiara Ferragni, se caschi te sfragni, diceva, non so se ve lo ricordate, era nel Medioevo. Ta ta Come si chiamava? Come si chiamava? Chi? Cosa? Bracardi. Franco Bracardi. Non so, non mi ricordavo, ragazzi. Mica me posso ricordare. Ma è morto? Bracardi è morto. Da morto. Oh, poverino. No, lui è morto, quindi poverino. Non va più. Lo è stato mentre stava morendo, poverino. Aveva qualche leggerissimo problema renale, Bracardi. Mi pare che fosse anche trapiantato di reni. Ok, insomma, c'è chi è trapiantato in un altro stato e c'è chi è trapiantato. E poi c'è chi è trapassato. Infatti, hanno cercato di sostituirlo con Giorgio Bracardi. Franco era. Era il fratello, era il fratello. Già, è vero, sì, Franco era l'attore. Niente frega. No. Mi sono confuso. Franco, Giorgio era l'attore, quello che ha doppiato anche Hartman, grande. E Franco era il pianista. Vabbè, possiamo andare avanti. Inginocchiamoci tutti per Franco Bracardi. Tutti non mi inginocchio perché se non posso pomegliato più. Parella è in ginocchio. Dai! E va bene, non è meglio, più in ginocchio. È vero che Barella è in ginocchio. È meglio un Barella in ginocchio o un ginocchio in Barella? Questa è la nuova moda. Integer l'ha ucciso Barella. Hitler, è stato Hitler, esatto. Si dice Integer. Quindi va bene. Ma dopo gioca anche Boolean? Vabbè, questo certo. Quattro salti in Barella. Questo è troppo. Quattro salti in Barella. Questo sì che è fantastico. Però io prima di sentire qualche curiosità dell'Austria, che sicuramente insomma il nostro Marco Gualdi ha fatto, farei un collegamento, perché giustamente noi durante questo periodo abbiamo sempre parlato di tanti sport, no, tantissimi sport, che perché volevamo essere alternativi e quindi esulare da sto fatto che dato ci sono gli europei dei calcio bisogna parlare di calcio, no, e abbiamo parlato di tanti sport. Invece in questa occasione specifica vogliamo parlare di calcio, giusto Marco? Sì, di calcio, ma soprattutto di calcio amatoriale, perché molto spesso viene lasciato da parte, invece questo, sebbene un contesto professionale, quindi mondiale, va ricordato, e quindi ci sembrava doveroso andare a vedere alcune partite singolari, appunto per partita singolare, del nostro bellissimo territorio italico. Cari amici, benvenuti al nostro consueto approfondimento con la nostra trasmissione Calcio Analisi, una finestra sul calcio nazionale di origine amatoriale. Questa sera analizzeremo la partita del Bulgaro Grasso contro il Fermo. Due squadre intense, due squadre che giocano il loro calcio senza esagerazioni tecniche. Sì, le esagerazioni tecniche spesso lasciano anche tutti un po' perplessi, no? Il calcio amatoriale, invece siamo di fronte sicuramente a due formazioni che hanno un approccio diverso. Perché il Bulgaro Grasso, per quanto un approccio estremamente appunto lombardo contro il Fermo, che invece è una squadra marchigiana, ha dimostrato tutto sommato di essere assolutamente in relazione con un calcio tecnico anche se primordiale. Cosa ne pensi? Assolutamente sì, sono d'accordo, perché il Bulgaro Grasso ha dimostrato ancora una volta la lentezza e la goffezza nei suoi movimenti, probabilmente scaturite da un inverno di allenamento scarso per le condizioni atmosferiche e non solo. Li ho trovati un po' sovrappeso. Cosa ne pensi? Sì, anch'io ho trovato il Bulgaro Grasso decisamente fuori forma sotto molti punti di vista. Abbiamo anche rilevato una certa predisposizione per il mangiare in campo, cosa che non si era ancora vista fino a poco tempo fa, e abbiamo visto che hanno anche un po' esagerato, no? Mi sembra che abbiano praticamente cenato sostanzialmente. Non ho mai visto crisi di fame così lampanti in un campionato amatoriale. Parliamo di carbonara, parliamo di la cassola, questo tipico piatto lombardo. Sì, e tra l'altro vicino alla bandierina del calcio d'angolo c'erano pure i tavolini con il tiramisù, quindi questo ci ha lasciato abbastanza perplessi in tutto questo. Io li ho trovati un po' pesantiti sinceramente, e non con molta voglia di correre dietro a un pallone. Sì, è vero, decisamente sfaticati. I movimenti che abbiamo visto sono stati giusto quelli che passavano tra il primo e il secondo, tra la prima e la seconda portata, poi per il resto non abbiamo avuto grosse relazioni durante questi 90 minuti. Non inferiore oltre, passiamo però adesso a sintetizzare la partita del Fermo. Sì, il Fermo ha lasciato tutti a bocca aperta, nel senso che ci saremmo aspettati qualcosa di più. più invece non abbiamo avuto nessun tipo di feedback, c'è stato pochissimo movimento in campo, con fatica sono addirittura usciti nel campo da gioco, no? Sì, anche se atleticamente a mio avviso erano predisposti perché erano più in forma, ho visto comunque pochissimo movimento in campo. Sì, non c'è stato gioco di squadra, non c'è stata pressione, non c'è stato pressing, non c'è stata difesa, non ci sono state parate, non ci sono stati calci di rigore, non ci sono stati calci, non ci sono stati piazzati, non ci sono stati passaggi, non ci sono stati falli di mano, non ci sono stati falli, non ci sono stati interventi. Non c'è stata intesa, in poche parole, anche con l'allenatore vedevo che c'era poco dialogo e soprattutto non c'è stato primo, non c'è stato secondo, non c'è stato dolce, non c'è stato dessert, non c'è stato caffè, non c'è stato la massa caffè, non c'è stata la frutta, non c'è stato sorbetto. Insomma, sì, una partita scarsa. Sì, davvero scarsa. E per quanto amatoriale, però speriamo che nella prossima puntata potremo ammirare un calcio italiano puro, ma con sicuramente qualche risultato diverso. Con una tradizione senz'altro di alto livello. Grazie a tutti. Bene, bene, bene, vabbè, quindi insomma, a volte ci si rimane male a queste partite di calcio amatoriale. Tra l'altro, questo mi dà lo spunto, prima di passare a Gualdi, di ricordarmi, forse Sbano se lo ricorda, perché magari sarà capitato un po' da ragazzino girando per i vari canali, c'erano delle emittenti private romane che trasmettevano le partite, diciamo, di categorie giovanili, no? Quindi quelle dove c'erano queste e c'erano praticamente queste partite, si vedevano malissimo, andavano lì con una telecameraccia tutta mezza sdrenata, una sola telecamera, solito, che seguiva il pallone, esatto, che andava dietro al pallone, e però il telecronista era vicino alla telecamera perché sicuramente non aveva neanche un microfono e usava il microfono della telecamera, e ovviamente questo non permetteva di discernere ovviamente tutti i suoni in background, dove si sentiva spaccagli le ossa, frantumalo quel ragazzino de merda, e anche i genitori che litigavano fra di loro, ma sono ragazzini, te faccio vedere io, sono ragazzini, faccio un culo così, cose così si sentivano, erano insomma, ben altri belle, tempi, oggi non si potrebbe belle cose più. Che insomma, diciamo che l'edificazione che è rappresentata sempre dallo sport, insomma, diciamo, ma infatti che, se i nostri calciatori sono quello mucchiata. Che sono è grazie a loro, esatto. È un calcio di rigori, però il calciatore non ha tirato il calcio, è scappato via, poi dopo è tornato indietro e ha tirato il calcio, quindi c'è la mucchiata col calcio di rigore, che però la regola impone al calcio di rigore di scappare via. È scappato via, poi dopo ha detto: oh cazzo, dovevo tirare il pallone. Gente che tira calci, quindi, insomma. Cioè pure le parolacce. Quella fa parte della, del calcio di rigore, infatti. Okay. Ragazzi, tra l'altro, non so se lo sapete, ma nel Fermo ha militato per anni Immobile. Immobile, sì. Esatto. Nelle giovanili del giovanili. Fermo. Esatto. Esatto, questa io non so, ci vorrebbe una musica appropriata quando diciamo queste cose. Insomma. Contropiede dell'Austria, però vabbè, no, ok, niente. Fermiamoci perché qui arriva il su. Si sono fermati loro. Arriva il contropiede, ma si è già fermato sul piede del portiere italiano, che ha rilanciato al numero 10, che passa al numero 8. Che aspetta di passare a un austriaco. Ma chi è quel giocatore daltonico con la felpa azzurra? Ma perché ha passato a quello vestito di rosso? E adesso il numero 10 vestito di rosso si sente offeso perché è stato catapultato in area di rigore, ma non è rigore, il gioco continua, e continua a cazzo, così come è nato, tutti dietro a un pallone. Ed è irregolarità laterale. Bravo! Ah, yeah! Bravo. Comunque, ragazzi, fallo di laterale. Curiosità per curiosità, perché dobbiamo chiudere il cerchio. Barella invece ha esordito nelle giovanili dell'Ospitaletto, lo volevo dire. Ah, ok. Vabbè. Bravo, è vero, assolutamente. È vero, confermano la loro cultura musicale. Guardi, allora, le curiosità sull'Austria. Purtroppo l'Austria è triste, innanzitutto. Cioè, io cercando cose non ho trovato niente. Anche più triste da Svizzera. Mamma mia, cioè, vabbè, e sono confinanti. Abbiamo, sì. E sono confinanti. Cosa? Babbiedor. barbabietole. Ma anche lì sono triste le barbabietole. Lì non mangiano lo zucchero. A questo punto, se mi consenti, che hanno, lo mettono nella sacchettone. Se mi consenti, dato che prima non siamo riusciti a farlo partire, ti faccio parlare dell'Austria con mettendo l'inno sotto, così almeno. Okay. Vai, prego, vai. No, perché voglio sentire pure l'inno. Dunque, triste l'inno. Triste, giustamente. In Austria vigono le leggi germaniche più o meno e danesi, la legge marziale, ma anche messicano, volendo, perché se tu vieni arrestato, questo l'avevamo già raccontato proprio in un'altra nazione, appunto, se tu vieni arrestato lì non è illegale evadere. Cioè, se tu evadi, è colpa dello Stato, certo. No, è perché cercare la libertà è un desiderio, un bisogno fondamentale dell'uomo. Quindi non ti possono punire se tu evadi. È una cosa naturale. Infatti, se ti ribeccano, non ti danno delle aggravanti. Cioè, okay. Sembra giusto. Cioè, ti rimettono dentro comunque, perché esatto. È giusto. Però non c'è l'aggravante dell'evasione, perché è un diritto fondamentale dell'uomo. Ti prendono i coppini così. Ti danno i coppini dietro la nuca, così tanto per ricordarti, insomma, che hai fatto il bischero. In Austria c'è un paese curioso, un paese che detiene il record di cartelli toponomastici, quelli del nome, come si chiamano? Vabbè, cartelli con dei nomi, del paese più rubato al mondo. Questo paese di circa un centinaio di abitanti si chiama Fucking. Ah, bello. Scritto fucking, insomma, e quindi tutti i cartelli con la freccia vengono goliardamente rubati. Chissà perché. Ma guarda, lo ruberei anch'io se mi mettete trovassi. Non più quest'anno, scusate. Che passiamo. Sì. C'è una canzone su questo paese che si chiama Fucking. Ma infatti sì, volevo proprio chiedervela di eseguirla, insomma. Per accedere al paese Fucking devi arrivare coi test e le analisi fatte. Ti fanno comunque indossare il preservativo. E poi ti danno i guantini per il fisting. Alcuni durante il fisting provano dolore. Usano dei disinfettanti. Ho preso l'HIV. Quelli non attenti non ci vanno più, perché hanno preso l'HIV. Free fucking. Bravi. Bravi. Intanto Michela dalla chat che dicono? Ti apprezzano questa? Niente, non dicono niente da molto tempo. Da fa caldo, è estate, ma perché dovrebbero stare a sentire? C'è Lobby che risponde a cuciniere. No, Lobby che risponde al 9000, come si combatte con la seconda guerra mondiale, e ovviamente ci mette il mitico Indy, che comunque dice che odia i nazisti. Ah, ok. Allora Marco, finiamo con queste due minchiate mentre cerchiamo di farci un gol. Aspetta. No, non abbiamo cambiato il gruppo per le dirette. Sì. Ma perché? Ma chi? Olivia ci chiede se abbiamo cambiato il gruppo per le dirette. Già mai, siamo sempre qua, siamo sempre noi. A volte fate delle domande Olivia un po' imbarazzanti. Un po' dei suoi prodotti erboristici. Ma poi non è possiamo fermare. Olivia, che te sei fumata. Non è possiamo fermare una trasmissione per rispondere a una singola persona. Basta digitare, insomma. Cioè. La nostra amica Girasole, che ieri è reduce dal suo primo live post-COVID, ha suonato i tamburelli. Perché i live se li era portati via il COVID, live purtroppo. Una cover band di Fabio Concato. Ragazzi, che incrocio dei pali che ha preso l'Italia. È stato Ciro. Quindi vabbè, niente, Ciro. E ha detto mannaggia la miseria, si vede dal labiale, eh? Accidenti, ha detto. Acciderbolina. Non era un perbacco. Mi sembra che nel lontano 94 le stupide creature editarono un singolo sull'acciderbolina. Esatto. Non so se o mi sbaglio. Sì, è stato editato. Ve lo facciamo ascoltare subito. Magari, sì. Acciderbolina. Ho saputo che a FAC vendono le palle di Mozart, che è un cioccolatino a forma di palla. ma non ho mai capito se in scala assaggia anche tu le palle di Mozart. Assaggia anche tu le palle di Mozart. Vai a fuck e prenota le palle di Mozart. Te le danno nell'ottava che vuoi. E che palle! Bene, bene, bravissimi, bravissimi. Bravi! Comunque si chiama fucking, no fuck il paese. Fucking. Allora, intanto Olivia, Olivia ci tiene a specificare che lei suona le maragas, non i tamburelli. I tamburelli, la stessa cosa. No, le maragas sono altre cose. Finiamo con le curiosità sull'Austria, che devo andare avanti con la scaletta. Giusto, giusto. La curiosità è la nascita della bandiera austriaca. Austriaca, che è sempre, cioè, conoscendo i soggetti, una cosa molto allegra, molto bella, molto simpatica, perché pare nasca da una cosa che è successa nel 1191, quindi poco tempo fa, quando il duca Leopoldo V, praticamente dopo una battaglia, lui vestiva di questa veste bianca, era completamente zuppo di sangue, perché bello, giustamente è una cosa bellissima. Quindi a un certo punto si è tolta la cinta e quindi è rimasto praticamente con questa cosa tutto bianco, con questa strisciata bianca, cioè rosso, perdon, pieno di sangue, e la strisciata bianca, e da lì pare che sia nata la bandiera bianca, diciamo, e rossa. Mi puzza di leggenda questa cosa. Può darsi, però potrebbe anche non essere. Però loro gli piace raccontare questa storia del sangue. È più simpatica che quella nostra. Infatti. Che è nata perché ci avanzava nei pezzi delle cose verde e rosse. Ma secondo me è la stessa cosa. Sì, cioè, si hanno messo due strisce rosse sulla neve. Sì. Cioè, potrebbe sembrare pantiera. E sempre, allora, sempre riguardo le cose belle e allegre che fanno. Certo, normalmente, sì. La bibita più famosa dell'Austria è lo Schnaps, che è un liquore tipico austriaco, per il quale nel 1788 pare che praticamente una tranquilla bevuta tra austri sfociò ad una sanguinosa praticamente battaglia dove morirono circa 10.000 persone. Oh, però queste sono sempre dicerie, cioè non si sa se è la stessa, Non, diciamo la così, una bevuta tra amici. Tranquillissima e pacificissima Austria. E poi una curiosità, che questa farebbe molto, piacerebbe molto a Giorgio Romero, cioè il cimitero centrale di Vienna praticamente ha più di 2 milioni e mezzo di tombe, cioè più della, grazie della, al cazzo si ammazzano tutti, infatti, questi per quello, praticamente è il doppio delle persone in vita presenti nella città. Quindi grazie, sabato sera l'ha riempito, vabbè, quello è normale, quindi insomma. Perché si ammazzano ogni volta che bevono, si ammazzano 10.000, giustamente, quindi se tu pensi alle generazioni, i morti sanno sempre più dei vivi, no? Ma più del doppio. Poi ricordiamo anche che l'Austria ha fatto parte di quell'agglomerato storico importante che si chiama l'impero austro-ungarico, cioè dove con gli ungheresi, principessa Sissi. Sissi, brava. Che Sissi bevevano lo Schnaps. Esatto. E poi si accoltellavano a vicenda. Si accoltellavano. Comunque c'è Olivia che ci chiede: ma la sapete la caratteristica della sindrome di Mozart? Oltre che delle palle di Mozart, io non la so la caratteristica della sindrome di Mozart. Voi la sapete? C'ho paura, cioè non, io voglio sapere. Infatti, sì, nel momento in cui lo diceva, ha detto: la sindrome di Mozart. Ho avuto un brivido dietro la schiena. Non ci senti, forse è quello. Mentre che cerchiamo la sindrome di Mozart, era Beethoven. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che Mozart fosse affetto dalla sindrome di Tourette. Ah, beh, allora che è in alcuni, per la verità, rari casi può portare il malato a sbottare senza preavviso, gridando parolacce. Noi ne sappiamo qualcosa, esatto. Tesi però che è stata respinta dalla Tourette Association of America, che lo conoscevano personalmente, esatto, quindi hanno potuto e si smentire. Sono sentiti offesi, cioè, ma per, come ti permetti di dire però che Mozart, però ho trovato un altro Tourette. Link, la passione di Mozart per la cacca, pensavo per le palle, quindi è tipo Morandi, quindi Morandi a chi si ispira? Esatto. È il Bach italiano, esatto, il Morandi è, sì, il Bach italiano. E piaceva un sacco a Mozart, no, la cacca gli piaceva proprio tanto, sì. Sguazzava nella merda. Che sì, a quanto pare. E questo dove la pelle fa bene i capelli. Questo l'abbiamo letto sul sito. Io non conosco la storia, me la invento, tanto è la stessa cosa, no? Giusto? Allora, perché sembrerebbe che lui, uno come Mozart, ruba i pezzi altrui per piazzarci sopra un testo a base di cacca. Vuol dire che c'è qualcosa da indagare, ma veramente mi sembra molto strano. Vabbè, ma sti cazzi comunque, andiamo, io non so andiamo. Il sito dove lo stai leggendo, ma non lo voglio sapere. No, manco io. Infatti, perché poi dobbiamo indugiare su sta cosa? Comunque, io ho un per far capire che poi alla fine lo sport ha sempre fatto parte un po' della nostra genesi, c'ho un diciamo un'intervista di repertorio, di molto di repertorio, insomma, sempre relativa al calcio, giusto Marco? Sì, è un'intervista che abbiamo compiuto per la nota trasmissione podcast di Stinti Starnuti. Cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Podcast Interviste. Quest'oggi abbiamo qui un uomo di sport, un americano, calciatore, fiore all'occhiello del Barcellona. Abbiamo qui con noi Tommy Lewis. Naturalmente ci faremo aiutare da un traduttore simultaneo. Ecco, caro Tom, ma come ti stai trovando nel Barcellona? Nel Barcellona mi sto trovando molto bene. Nel Barcellona ho trovato una buona squadra che mi ha accolto fino alle prime settimane. Che mi ha accolto. Devo dire che è stato molto facile bene. In questo modo ambientarsi. È stato molto facile ambientarsi in questo modo. Bene, e dell'allenatore, questo allenatore così rude ma che piace molto ai giocatori, tu cosa ne pensi? Questo allenatore che io devo soltanto poter ringraziare l'allenatore Suarez. Devo soltanto ringraziare. Certo, venendo da un paese anglosassone, da un paese così detto venendo da un paese anglosassone, sicuramente trovare un allenatore così espansivo che effettivamente non è presente soltanto sul campo da gioco, che effettivamente non sta ma anche nella nostra vita privata di gioco, tutti ma anche i calciatori. Nella vita privata. Comunque dopo un po' di settimane anche lì ci siamo abituati ed è bello sentire una persona dopo così qualche che tempo ci siamo abituati e siamo abituati molto bene con una persona che ci segue sempre ed è molto bello. Ringraziamo Tom Lewis per averci regalato un po' del suo tempo. Grazie Tom. Ha detto oh, grazie, ti sta ringraziando. Grazie. Ha detto grazie. Prego Tom. Ha detto prego. A voi. A voi. No, per noi è un piacere, un no, onore. Dice che per loro è un piacere, un onore. L'onore è il mio. No, dice che l'onore è tutto suo. Ma ti contatteremo volentieri perché sei stato un grande ospite. Ha detto che ti contatteremo volentieri perché sei un grande ospite. Però quanti complimenti mi lusingate. Dice quanti complimenti mi lusingate. Ma no, è verità. No, dice è verità. Verità mezza bellezza. Dice verità mezza bellezza. Bene, su questa massima vi salutiamo. Su questa massima vi salutiamo. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci. E beh, Distinti Starnuti è stato un grande momento di storia del podcast mondiale e Francesco l'ha apprezzato, giusto Francesco? Tu l'hai sempre trovato molto divertente. Stasera mi fa cagare così, ieri lo apprezzavo ancora, stasera così mi fa cagare, sono un po' così. Ok. Beh, ma questo è tipico dell'effetto ora che mi fa... piace ancora, ora mi piace di nuovo, ecco, ecco. No, appunto, dicevo, avendo parlato di Mozart, la sua passione per le feci era normale. Era scontato. Un intervento di questo tipo. Anzi, forse è stato un po' influenzato anche da questa cosa. Sì, è stato un po' influenzato, ma l'influenza si sa che oramai fa milioni di vittime al mondo. Bene, Sbano, aggiornamenti? Ma guarda, c'è sempre un po' di ammucchiata nell'area austriaca, tendenzialmente si gioca nella loro metà campo, ogni tanto c'è un'incursione dalle nostre parti, ma Donnarumma lo vedo abbastanza rilassato. Madonnarumma! però insomma, al gol non Rumma. Ci arriviamo. Credo sia una bestemmia, comunque. Esatto. Non vorrei dire niente, ma... Vabbè. Ok, Michela, il fallo di pareggio. Il fallo di pareggio. Esiste un fallo di pareggio? Certo. Sì, ce l'ho di spiegare. Cioè, vuol dire che tu pareggi, però fai finta che hai vinto. Esatto, certo. Esulti, esulti. Il primo che esulta grazie, vince in realtà. Esatto, e l'arbitro si incazza giustamente. Perché certo, sbatte la porta. L'arbitro si butta per terra e. Pure l'arbitro. E se ne va. Se ne va da per terra, però. Cioè, lui si butta per terra e poi si butta per terra. Protesta. Si inginocchia. Ma l'arbitro non può protestare. L'arbitro decide. Avete rotto il cazzo e se ne va. Ah, ok, ok. Quindi questa cosa delle parolacce. Michele, se l'arbitro fosse Byron Moreno? Se l'arbitro fosse Byron Moreno, gli daremmo un sacco di botte. Noi tutti insieme. Ma è ancora in carcere lui? Sì, credo proprio di sì. Non lo so. Sì, sì, credo di sì. Sì. È una delle partite più vergognose della storia del mondo. No, ma dopo pensare, Michela, che quello non è stato il momento peggiore della sua vita. Cioè... O migliore, a seconda del punto di vista economico. Esatto. Insomma, cioè. Esatto, esatto. Tanto l'Italia continua ad attaccare, tirano, ma non ad attaccare e attaccarsi. Vabbè, ma io non me la sono mai presa con lui in persona. Cioè, lì era tutto un magna magna. cioè assurdo, dai. Beh, sì, ricordiamo che la Corea del Sud, grande fiducia, in quel mondiale arrivò fino alle semifinali, se non sbaglio, giusto? Mi pare proprio di sì. Esatto. Poi il ritegno volle che almeno per le semifinali uscisse. C'è un pallone che non tirerà nessuno. Nessuno. Ok, ai, ai, è arrivato da solo. No, proprio no. Niente, Ciro. Attenzione. Non è Ciro. Michela, quando è che c'è l'oltraggio d'angolo? L'oltraggio d'angolo? Sì. È quando tu, appunto, invece di tirare il calcio d'angolo, lasci la palla in mezzo all'angolo e scappi. E te ne vai. E soprattutto scappi perché la palla. Quello è un oltraggio, tua. Perché è un atteggiamento antisportivo. Esatto, soprattutto se la palla è la tua. Ma tipo, lasci lì, cioè, è un oltraggio d'angolo. Ti sembra, cioè, corri via perché pensi di giocare a baseball, quindi devi andare a fare tutto il campo e poi riprendere la palla, capito? Che a quel punto però non si può più utilizzare. Ragazzi, ho un dubbio a sto punto, Marco, ma gli austriaci giocano con le palle di Mozart? Esatto. Ovviamente sì. Però non possono usarle continuamente perché si sciolgono. Il problema è quello. Comunque stiamo facendo un nuovo collegamento con la nostra, con Andromaca la Lumaca. Sentite che sta facendo? Sta mangiando ancora. Sta mangiando, sì. Chissà se è lo stesso filo d'erba o se ne ha cominciato un altro. Lo possiamo sapere, perché è quantistica. È chiuso nella scatola quantistica, fino a che non andiamo a vedere, non possiamo sapere. Ho capito. Va bene, in realtà io a questo punto avevo in mente di fare una cosa, ma l'ho dimenticata, perché voi dovete sapere che questa trasmissione è sì... Dobbiamo fare un collegamento prima o poi. No, nel secondo tempo. È stato detto nel secondo tempo. Però se... Anche se a me è arrivato un messaggio, dice che mi sembra un po' spaventata questa persona, però nel secondo tempo va bene. Cioè io... Ah no, giusto, hai ragione. Allora facciamo... No, cioè, non possiamo anche aspettare. No, facciamo questo collegamento. Mentre facciamo il collegamento, lo facciamo introdurre a Francesco, abbiamo letto un articolo proprio recentemente dove praticamente c'era questo tizio austriaco, non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo. Un tizio austriaco, tale, non mi ricordo il nome. Ovviamente non mi ricordo il nome perché voi le cose me le avete di prima. Vabbè, non fa niente il nome. Intanto dai. Sgasano fuori dallo studio, tipo Fast and Furious, entrano gas di scarico qui, quindi se a un certo punto non ci sentite più è perché è monossido di carbonio. Erano a ritmo comunque, ho sentito. Sì, proprio... sì, era la CL ritmo, però. Sì, assolutamente. Comunque ora ci sono, perché non lo sapevate, ma mi stavo allontanando dal microfono e mi avete chiamato così all'intrasatta, quindi. E ma noi siamo sempre... Se tu fai la trasmissione con noi mentre ti gratti i piedi è un altro discorso. Comunque abbiamo un collegamento proprio con l'Austria. Sì, con Dieter Schaden dal suo appartamento di Neumarkt am Waller, si chiama così sto paese, ed è una particolarità perché dal 98, a parte che lui è appassionato di motociclette, quindi sentirete anche le motorette. Lui, anche se è austriaco, doc, lui tifa Italia, okay, da sempre. E come si chiama? È in azzurro. Come... Dieter, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Non parlate troppo forte perché ho un piccolo problema. Non sono a casa io. Cioè, nel senso, dobbiamo parlare piano perché sennò non ci capisce. Aspetta, allora forse parlo io piano perché voi potete parlare, tanto non credo che si senta da fuori bagno. No, non lo so, dipende da come sta emanando il nostro suono dal suo dispositivo, chiaramente. No, io sto tranquillo, è che sono andato a vedere partita di Italia-Austria e sono qui a Wimbledon, non sono in Austria, sono venuto qui, ho pagato il biglietto, ho preso il biglietto ultima ora e sono andato qui Wimbledon. No, però Wimbledon, adesso... Wembley, è finito il primo tempo nel frattempo. Non è interessante, io ho quello giusto, non te l'ho fatto come francese, io ho preso quello giusto di cosa. Sto dentro a Bani adesso perché non posso parlare della curva. Vabbè, perché scusi perché allora prima raccontiamo bene. Lei è austriaco ma tifa per l'Italia, giusto? Io sempre tifato per l'Italia, sempre mia squadra cuore, ma certo, c'è una ragione, perché già mio bisnonno che combatteva combatteva contro ovviamente italiani perché lui è austriaco, lui si rifiutava di sparare contro italiani perché lui amava tanto italiani e non sparava. Ma questo però non si può fare in guerra sta cosa, giusto? è stato pubblicato, infatti. Ecco. Peraltro, altro tradimento, però noi siamo molto fieri, noi famiglia molto fieri, perché lui è morto per l'Italia. Ok, quindi praticamente lei invece di portarsi dentro un dolore, cioè quindi avercela magari con, che ne so, del riflesso un po'. Cioè, con... C'è orgoglio, c'è molto orgoglio italiano. Orgoglio italiano, ho capito. Va bene, ma quindi lei in questo momento sta vedendo la partita con l'orgoglio di tifare per l'Italia, giusto? Sì, sto tifando l'Italia, però non posso vedere partita. Perché non ha il televisore? Che è successo? No, io sa che io vengo sempre con maglietta Italia. Sì? Ho messo, sa che per c'è di parlare, ho messo Mari, Ciro Immobile. Sì. Grande Ciro. Grande giocatore, grande. Della Lazio, Ciro Immobile. Non è importante, lui è italiano, il simbolo Italia, yeah? E praticamente ho messo la maglietta. E il problema è che il biglietto che ho comprato è in mezzo ai tifosi austriaci. Ah, ecco, quindi lei in questo momento non è in bagno perché aveva bisogno? In realtà ho avuto anche un po' bisogno, perché quando mi sono ritrovato in mezzo a curva piena di miei compaesani austriaci, ho avuto un po' un movimento intestinale. Ah, okay. E allora sono andato in bagno. Ma lo sa che quando sono ero... qui da tre quarti d'ora che sono qui in bagno. Com'è andata la partita? No, è finita la partita. Primo tempo ancora, 0-0 ancora. No, occupate, occupate. Bussano. Mi bussano alla porta. Sì, ok. Ma lo sai che c'era un film quando ero bambino io, di questo tizio che praticamente era fidanzato con una che aveva tutti i parenti da Roma, però lui era della Lazio. E praticamente lui, per far contento sia il padre suo che era della Lazio... Aspetta, un momento. Film con Eric Montesano. No, Pippo Franco. Pippo Franco, sì, ho visto il film, che noi in casa nostra vediamo sempre commedie italiane, la migliore del mondo. Bello, perché lui c'aveva la maglietta double face, no? C'aveva la maglietta della Lazio, poi dopo per andare nella curva della Roma si spogliava, se la cambiava e sotto era diventata, però poi alla fine si è confuso, insomma. Io non ho fatto questo, okay. Io penso direttamente maglietta degli anni, io sono solo italiano, io non tifo Austria, io tifo Italia. Ok, quindi... va bene, però esca dal bagno, quindi... vado a vedere la partita. Ecco, no, bus... niente, no, io... No, occupato. Ma poi che stadio è che c'hanno i bagni privati? Insomma, vabbè, comunque. Va bene, allora noi ci faccia sapere eventualmente. Casomai ci ricolleghiamo dopo per sapere se è tutto a posto. Sì, io fra un po' provo a uscire, vediamo che succede. Metto testa fuori da porta. Ok, però mi raccomando, consideri che lei ha pagato un biglietto, insomma, quindi ha il diritto di vedere la partita. Ho pagato, però insomma io... un po' cacco sotto. Ok. Beh, infatti sta nel posto giusto. Michela, vuoi salutare il nostro amico? No, io saluto il nostro amico e ricordo cioè che oltre il film di Pippo Franco mi viene più in mente Fantozzi a Italia Scozia, cioè. anche brava anche sempre cinematografia italiana, momento del cinema, va bene. Dieter, come ti chiami? Ti salutiamo, eventualmente ci sentiamo dopo. Ci vediamo dopo. Arrivederci. Occupate. Bocca al lupo. Va bene, dai, riprendiamo la nostra trasmissione. E ragazzi, spero che questo collegamento vi abbia fatto piacere. Chiaramente è una questione folcloristica che riguarda un po' anche un po' l'orgoglio. Ci fa piacere, insomma, sapere che c'è uno straniero che tifa per l'Italia anche quando l'Italia gioca contro la sua nazione, giusto, Marco? Assolutamente, io infatti avrei fatto la stessa cosa, avrei messo la maglietta dell'Italia e mi sarei chiuso al cesso. Quindi è quello, insomma, che ho capito. Sentiamo invece che cosa ne pensano le stupide creature di questa cosa. Mi sono chiuso dentro al cesso e non guardo l'Italia, però tengo sulla casacca blu, me la faccio addosso, me la guarderò registrata la partita. Per intanto, come Mozart, mi piace la pupù e ho la sindrome di Tourette. Porca puttana, te la vai a fare un culo, pagato il biglietto costa un sacco di soldi, sono qua nel cesso. Però amo l'Italia. Bravi, bravi, bravi. Bravi. Sbano, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo puntualizzare, sento il dovere biografico di fare questa puntualizzazione, anche salutando il nostro amico Asburgico, che il film che avete citato era Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, in cui Pippo Franco, in verità ti dico, è tifoso della Roma, il figlio del barista, okay, del Bar Forza Rubi. Sì, ma non è che mi ricordavo. Scusa, eh sì, non mi ricordavo, però mi ricordavo che lui si cambiava. Eh sì, poi sì, perché era fidanzato con la figlia di Pecorazzi. Esatto. Che sì, era laziale invece, esatto. Così. Vabbè, comunque il film, mi ricordo solo sta cosa che si, cioè onestamente l'avrò visto 45 anni fa, insomma. Invece una cosa importante da dire, visto che siamo nell'intervallo della partita, ragazzi, oggi è anche il giorno del Pride, non so se l'abbiamo detto, mi è venuto in mente, pare brutto. Ah sì, l'Amazon Pride, certo, certo, Marco, certo. Ho comprato qualche cosa oggi, ho visto, c'erano delle belle offerte. No, è lunedì scorso. Vabbè, no, ma conviene comprare quando non c'è il Pride, quando c'è il Pride, quando non c'è il Prime Day, così non ti fregano più. Anche soldi. Perché vi svelo un segreto che nessuno sa: se tu cerchi un prodotto, poi dopo, quando viene l'Amazon Pride, giusto? Amazon Pride, tu vai lì e gli cerchi il prodotto, lui non te lo dice. E cosa succede? Devo mettere al culo e si chiude il cerchio. Vedi, tutto torna. Potrebbero dire le stupide creature, delle quali adesso sentiamo un'ennesima canzone. Ci riprendiamo all'Amazon Pride. Ci riprendiamo un secondo, così beviamo un po' dell'acqua e poi ci prepariamo per questo meraviglioso secondo tempo. Finalmente la stagione dei moon boot, così fredda ed umida, non ne potevo più. Sotto un ombrellone ragazze indossano sandali. Oh yeah. Oggi mi sento libero e ripenso a te, mentre mi calpesti coi tuoi sandali. Un odore, una libidine, immagine indescrivibile, sento la tua impronta su di me e sono già in estasi, in preda ad un delirio erotomane, coi palmi a ferro mi copri fate di moquette, sento la fiamma del cemento da sotto di me, come una goccia di cristallo, come una fabbrica di vinini che afferra tutti i miei limiti. Ma poi svanisce tutto, tutto, tutto. Quando te ne vai e porti via anche i coprivate in moquette. Ora io non penso più a te, e metto solamente il mio ex. Coprivate in moquette. Ricordo invisibile, imprescindibile da noi. Non ti perdonerò, anche se amo i tuoi piedi, bellissimi, i tuoi capelli, bellissimi, i tuoi occhi, bellissimi, il tuo sorriso, bellissimi. Preda ad un delirio erotomane, coi palmi a ferro, il coprivate di moquette. Sento la fiamma del cemento calda sotto di me, come una goccia di cristallo, come una fabbrica di vimini che afferra tutti i miei limiti. Sto con la rimica, ragazzi. ragazzi, per piacere. No, che sono un po' depresso. Ma non è tanto lei che mi manca, che il discorso mi ha portato via una cosa a cui tenevo molto, mi manca proprio il mio coprivate di moquette. E poi cazzo, ci asciugavo anche la goccia. Siete bravi? Sì, sì. No, volevo chiedere, ma lo fate per lavoro o per hobby? Corri in edicola, è uscito Mondo Matematica! Sì, Mondo Matematica è la rivista per te che ami contare qualunque cosa, soldi, caramelle, ore, minuti, secondi o i passi da casa a scuola. La prima uscita sarà tua a solo un euro e per portarsi a casa l'utile calcolatrice basta raggiungere altri 4 euro. Quindi quant'è il totale? Ah, Mondo Matematica ti aspetta in edicola! Perché cioè, il lavoro è molto difficile oggi, poi hanno fatto tutti questi tagli alla cultura, no? Se voi ve lo tenete come hobby, voi potete sempre, nel tempo libero, poi quando vi riunite nel vostro scantinato, fare le vostre, no? Meglio per la creatività, poi che sia un hobby, no? Meglio un hobby, no? Un lavoro, non so, bisogna pensarci. Bene, intanto qui noi chiacchieriamo giustamente, perché non è che insomma possiamo stare giustamente. Allora, oh, ma questa Michela di DJ siamo, stanno per rientrare in campo. Michela, questo primo tempo come un'analisi tecnica? Due palle. Allora, è stato molto interessante. E l'Italia ha segnato? No. Ah, ok. Non hanno neanche iniziato ancora. No, che ne so, c'è stai ragazzino con la trombetta che mo io metto dove si dice, stanno facendo un po' di rumore. Ah, no, vero? È perché stiamo aprendo la birra, ma non ci riusciamo. Ah, ok. No, semplicemente adesso va, arriva la birra nuova. Arriva la birra fresca, tu ti vabbè, birra. Questa era l'emergenza da gestire. Svuota. La mia paura è che ho estrinsecato per tutta la sera è ma quindi qua qualcuno deve vincere per forza, oppure ma quindi deve perdere per forza. Deve perdere per forza, ovviamente. Ma quindi, se al 90esimo arriviamo senza gol, non finiamo più, non andremo mai più a dormire. Resteremo qua tutta la notte ad aspettare che si decidano chi vince e chi perde. anche facciamo oltre un time da notte. Infatti, allora ragazzi, questo è il momento in cui, prima, mentre sta iniziando il secondo tempo, proviamo con il nostro solito concorso per vedere se riusciamo a far vincere il nostro cavolo Verza, che di solito insomma lo mettiamo a disposizione, a un... ecco, è caduta una cosa, si è spento tutto, fa niente, va bene. Credo che però poi il collegamento non si possa fare. No, si fa il collegamento, si fa se riusciamo. Niente. Ah, fa no, non cade, o cade o mi attacca. O insomma, adesso vediamo, ci riproviamo. Cade il cavolo Verza cade. Ci riproviamo un'altra volta, vediamo se riusciamo a far vincere questo cavolo Verza. Però insomma, è sempre una cosa abbastanza particolare perché bisogna beccare la persona giusta e soprattutto ricordiamoci che la persona deve stare ascoltando Antemedio, quindi un suggerire magari. Esatto, hai ragione. Infatti, aspettiamo un attimo a vedere. Un'ansia, cioè. Squilla. È importante il fatto possiamo che squilla. Lasciare il cavolo Verza orfano di proprietario. Squilla, attenzione. Lui si sta domandando. Cazzo, sta. Lei che vuole questo? Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica. A posto. E niente. La privacy è con noi. No, vabbè. Basta attaccare, Bizzi, senza che ti scappi gol. No, vabbè. Faccio prima a tirare giù il cursore. Che niente, andiamo avanti con. Ragazzi, tocca fare qualcosa perché il cavolo Verza è scaduto l'altro ieri. No, ma noi li compriamo in continuazione. Ce li fornisce Olivia. Sentiamo Mauro che ci stava dicendo qualcosa. Nell'attesa. Noi canteremmo una top 10 direi di tutti i tempi austriaca, proprio così. E noi non vediamo l'ora di ascoltarla. Maestro si bemolle, per favore. Un austriaco felice sulla cima del monte, quando vede un cuculo lo saluta così. Cuculo! Ittia, olala, ittia, olala, cuculo! Olala, ittia, olala, olala, ittia, olala, cuculo! Olala, ittia, cuculo! Un austriaco felice con la cima del monte, quando vede Michela la saluta così. Cuculo! Ittia, olala, ittia, olala, cuculo! Olala, ittia, olala, cuculo! Olala, ittia. Un austriaco felice dentro i bagni dello stadio, se non vede l'Italia la saluta così. Italia, olala, titia, olala, olala, titia, olala, olala, titia, olala, olala, titia, bravissimi. Bravissimi, però la cantante mi rideva. La cantante mi rideva. E allora, questo... intanto io volevo chiedere scusa all'austriaco felice che ho incontrato l'altro giorno in montagna, perché quando l'ho sentito gridare cose incomprensibili, che adesso ho capito cosa stava gridando, sono scappata a gambe levate. Quindi mi dispiace. In realtà, chiedevo solo cuculo e basta. Appunto, cioè, quindi se avessi saputo che era un grido di pace, mi sarei avvicinata. Beh, pace, questo è tutto assolutamente relativo, insomma, quindi bene. Io non so se mi danno segnale dalla regia, io proverei a fare il collegamento con Pippo, con il nostro scienziato. Intanto volano cartellini gialli qui, volano questa cosa gialli. È un po' Inception, secondo la quale la regia chiede aiuto alla regia. Esatto, perché io non sono la regia, io sono il conduttore. È tutto virtuale. Una parte di te, certo. Sì. Una parte di me. È una delle sue cinque personalità. Ok, mentre io mi organizzo. Insomma, ci vorrebbe un professionista per curare le multiple personalità di Pizzi. Multiple personalità. Lo esatto. Stiamo per chiamare. È Pippo Campo. Appunto, vabbè, era un gancio, infatti. Tanto, Osbano, raccontaci cosa sta succedendo. Che stranamente, non so se Michela può spiegarmi perché. Forse si è rotta la telecamera e hanno portato quella dall'altra parte. Non so perché adesso noi stiamo giocando al lato opposto rispetto a prima. Perché? Perché si fa un po' per uno. se nessuno si ingrugna così. Esatto, sì, nessuno si ingrugna. Tutto sommato fa una piega. Cioè, non si inginocchiano per Black Lives Matter, però la sportività ti fa un po' per uno. Questa non è sportività, queste sono regole, che è diverso, capito? Cioè, Smathers. No, comunque punizione. Come diceva mia madre, un po' per uno non fa male a nessuno. Vabbè, Michela, ma tu hai giocato a pallavolo in spiaggia, per esempio, e si cambia, no? Sì, ovviamente. C'è il famoso cambio, cambio campo. Cambio campo. Esatto. Bravo. Esatto. Ragazzi, c'è una posizione dal limite per l'Austria. Io ci giocavo, sono stata un pippa abbastanza. Però c'è per molto tempo. Perché si dice punizione dal limite? Che cos'è il limite? Il limite è lo spazio. Ma lo spazio è infinito, non può essere un limite. Il limite è quanto ci hai sfragassato i coglioni, quindi a una certa. Qui c'è il pericolo, però, signore, c'è il pericolo perché Alibaba sta per. Tirare tutto questo razzismo. È di seconda, la tocca. La tocca prima, piano. E niente, vabbè. No, non mi spoilerate ancora. Ecco. Era convinto di giocare ancora nell'altro campo, quindi l'ha tirata verso il proprio. Comunque, però ha girato bene, dai. Zitto. Una bella tirata ha fatto, sì. Anche Maradona faceva sempre così. Bene, ragazzi, abbiamo in collegamento questa volta, credo al di fuori dell'orario di lavoro, il dottor Pippo Campo. Buonasera, dottore. No, mi sa che ancora sta guardando la partita. Sì, o sta lavorando come l'altra volta. Non si capisce bene. Buonasera, dottore. Buonasera. Buonasera, scusate, stavo dando l'ultima indicazione ad un cliente, un attimo, non torni settimana prossima, la fattura mi raccomando in contanti perché se no devo pagare, sapete. Buonasera. Però deve mutare quando fa queste cose, perché siamo in diretta qui su Runtime Radio come tutte le settimane, insomma. Infatti, stavo ascoltando in background. Mi è venuta una domanda, professore. Non so se sono indiscreto nel chiederlo, ma fa troppe domande ed è troppo indiscreto. Però volevo sapere se la fattura è elettronica o meno. Insomma, secondo me è elettrotecnica. No, elettronica nel senso che emette delle scosse che fanno male, quindi sì, elettronica, noi preferiamo così, al concate è una procedura che abbiamo adottato, sì, altrimenti l'altra è anche peggio per i casi più gravi, sai com'è. È prevista la costrizione in quei casi, vero? Bene, allora veniamo al tema della puntata, caro dottore. Noi abbiamo chiamato fondamentalmente, intanto c'è un austriaco che ha tentato veramente l'omicidio. Ma più austriaci stanno veramente tentando. Anche se però l'italiano in realtà non è stato toccato, però è giusto buttarsi perché, cioè, no, Madonna, li stanno ammazzando davvero. No, veramente l'ha toccato. No, comunque, no. Vabbè, torniamo al dottore. Il tema della puntata, come lei sa, insomma, ovviamente, è questa questione del Black Lives Matter, come diceva Michela. Black Lives Matter. Esatto. Che praticamente, insomma, l'Italia. Black Lives Matter. L'Italia ci ha avuto un approccio, diciamo, un po' ambiguo, dicendo o ci inginocchiamo tutti o non si inginocchia nessuno. Poi, no, non ci inginocchiamo. No, poi ci inginocchiamo se si inginocchiano pure l'altro. Esatto, grazie, quindi, al cavolo. Insomma, magari lei ha avuto modo di parlarne con gli azzurri di questa cosa. Ovviamente, certo, quello che vi rivelerò solo a voi in via del tutto esclusiva è che tutta questa situazione è un diversivo, tutto un diversivo di, comunque sempre di quel protocollo, di quel tecnico che stiamo sperimentando, ripeto, con la nazionale italiana, con la possibilità di estendere questo protocollo di base, di empowerment cognitivo ed emotivo, psicologico, per affrontare situazioni simili come un mondiale, perché comunque può sembrare un gioco, è divertente, le magliette, le trombette, comunque molto, una situazione molto stressante, molto impegnativa per gli atleti, capisco, quindi ci voleva un approccio, certo, innovativo. Però che comunque, ripeto, come lo sto dicendo, avendo vinto questo assalto di uno sputo rispetto a un altro laboratorio cinese che sta sempre lì a fare avvoltoi, a capire, a cercare di copiare le nostre tecniche, quelli dell'altra volta, molte cose devono rimanere piuttosto riservate, certo. quindi è stata usata questa copertura Black Lives Matter, eccetera eccetera. In realtà il motivo vero per cui non si possono inginocchiare è perché io da circa due settimane sto facendo questo nuovo trattamento, sempre di meditazione, questo adottato da un altro guru indiano che si chiama, faccio sempre fatica a pronunciarlo, scusate, si chiama Chola Tendinit Kamal. Okay. Quello è doloroso. Ok, prego. Praticamente il motivo per cui non posso inginocchiarsi è perché questa tecnica per cercare di rafforzare sempre di più, diciamo, dal punto di vista psichico e fisico, perché comunque le cose sono connesse. Noi di tradizione occidentale bisogna sempre differenziare lo spirito e il corpo, la mente e il corpo, in realtà sono tutta l'altra cosa, tutto la stessa cosa. Quindi influenzare lo spirito, scusate, la mente, il corpo e viceversa. Vabbè, però non voglio dilungarmi in questi cavilli teorici. Comunque questo trattamento è molto si dice che abbia ispirato anche addirittura dei cartoni giapponesi tipo i Super Boys. Praticamente consiste nel far meditare per 40 minuti al giorno su un bel tappetino di chiodini belli affilati, i giocatori della nazionale inginocchiati mentre recitano un mantra che fa il motivo per cui non posso inginocchiarsi è perché è vero che questi li rinvigorisce, sembra, questo trattamento li rende anche più immuni, diciamo, ai dolori, più resistenti, però comunque dà dei problemi, cioè non gli permette di potersi piegare le ginocchia, cioè come effetto collaterale, diciamo, immediato è quello che per una settimana hanno difficoltà di inginocchiarsi, quindi speriamo dalla settimana prossima possano inginocchiarsi. Questa è la fine di tutto è stato Black Lives Matter, inginocchiamo, no, razzismo, nazismo, okay. Cioè adesso sono un anacquamento. Bene, come si ne esce però da questa cosa? Ce ne esce che devono aspettare un po' di tempo e vedere soprattutto l'altra squadra che fa. Ok, ma quindi l'altra squadra che fa. Però c'è un metodo di accelerazione per stimolarli, insomma, no? Baglia capocciate. Anche a Mucciate, va bene. Io invece sto vedendo l'Italia un po' diciamo rallentata, un po' distratta. Beh, diciamo che si è accesa la partita, è diventata molto agonistica. Distratta. Sta facendo troppi errori. Troppi errori. Si è inventato tutto, ho capito bene? Pronto? Dottore? Professore? No, è dottore. Salve. Prego. Sono qui. 5, giustamente gli altri 6 coglioni, 5 coglioni sono rimasti in piedi. Okay. Hanno subito sto trattamento di dire qua per indicare dovete stare in ginocchio sui chiodi, invece col cazzo. Gli altri bravi avevano messo dei chiodi finti, però comunque devono fare finta che anche loro erano veri. Okay. Mi hanno detto: mi raccomando, una cosa che ci tengo, ci tiene particolarmente, non facciamo i due soliti asini. Inginocchiamoci. Ma tutto quanto la prossima volta. Quindi questa è una confidenza che ci sta facendo. Sì, però mi raccomando. Va bene. Mi raccomando. Solo tra noi e un po' da ascoltatori. Esatto, sì. No, in realtà pure questo, forse non raccomando una battuta. Ok. Quindi ce la capiamo così. Va bene, caro dottor Pippo Campo. Io la ringrazio per il tempo che ci dedica sempre ogni volta. Ci sentiamo. Il tempo che dedicate voi a me. A lei, esatto. Che insomma è sempre un interscambio. Che non è fatturato, grazie a Dio. Questo è quello. se non lo dicevi era meglio, sì. Esatto, elettromeccanica anche. Elettromeccanica. Bene, grazie, arrivederci. Elettrolitica. Esatto, arrivederci, arrivederci. Buonasera. Grazie. E andiamo dalle stupide creature per cercare di capire se esiste, diciamo, un brano a caso, insomma, sull'argomento. Sì, esiste, però volevamo fare una domanda e cercare di capire se possa essere considerato razzismo dire al giocatore della compagine austriaca di colore che ha i piedi a banana. Ecco, c'è un riferimento antropologico, c'è un riferimento antropologico. Allora, diciamo che in senso calcistico generale, no, si dice, no, quando uno... Vabbè, scusa, ma gli ho detto che c'ha piedi e banana, non che se mangi piedi e banana, cioè, però scusa, il piede, la tu associ antropologicamente la banana alla scimmia, capisci? L'uomo di colore. Noi qua tutti eravamo d'accordo col dire, guarda, che non si può più non dire, si può dire, cosa, no, quindi politicamente... io spero che venga tolto questo modo veramente. Con cosa lo sostituiresti tu, per esempio? Poi. Questo è importante, vediamo. Niente, ad anguria. Ad anguria, ad anguria. Sì, ma va bene un altro no, frutto. No, pure quella lì è connessa a anguria, pollo fritto, queste cose qua. Però non arriva subito, arriva tra un paio d'anni. La banana è più possiamo diretto, dire che prego. Piedi invertiti, così non cadiamo nel stereotipo. Ah, invertiti, no, invertiti, no, invertiti non si può dire. No, e poi dopo se sei invertito, ai piedi degli invertiti. Esatto, cetriolo no, quadrati. Nel frattempo siamo al 62esimo minuto e non succede niente. Ieri è disperata perché lei non vede già l'ora di andarsene a letto. È giusto, andare a dormire è sempre vedi, Mauro è d'accordo con te. Mauro, grazie, io lo so, veramente so che c'è questa interconnessione. Aspetta che l'Austria vuole provare c'era a darti San una mano, ma niente. San Bittero ha cercato di... Ops, no, c'è i piedi quadrati. Anche se il piede quadrato potrebbe essere razzismo nei confronti dell'omino di Minecraft. Esatto, bravissimo. Infatti bisogna stare molto attenti. Non voglio che mi prendano qualcosa che non si potrà mai più uscire con questo sistema. Esatto. Allora a questo punto anche dire che i piedi può essere un problema. Per esempio, il mio pizzettaro che gliene manca uno è discriminante. Salutiamo Melanie che nel frattempo è arrivata. Ok, ciao Melanie, benvenuta. Cioè a te c'è il pizzettaio senza un piede? Sì. Beh, potremmo dire che hanno i piedi diversamente abili. Peggio, che diversamente, la parola diversamente. Sento gli specchi che si arrampicano. I famosi specchi che si arrampicano sulle persone, certo. Bene, io a questo punto mi collegherei, cioè darei nuovamente la parola alla seconda partita amatoriale, no? Giusto, Marco? Sì, noi ne abbiamo registrate due per questa puntata e siamo sempre in giro per l'Italia alla ricerca del calcio amatoriale di qualità. Cari amici, benvenuti a oggi uno sguardo intenso e rispettoso verso quello che è il calcio, che viene spesso considerato così di seconda lega, invece spesso è importante soprattutto sul piano sociale, il calcio amatoriale. Quest'oggi commenteremo, analizzeremo la partita tra il Bellano e il Belluno, queste due squadre molto importanti col nome somigliante ma che ha delle differenze. Sì, ha delle differenze soprattutto sul modo di giocare. Noi siamo rimasti molto colpiti da quello che è successo oggi in campo, non avremmo voluto sinceramente vedere queste cose, soprattutto sul piano tifoso. Questi tifosi che facevano body shaming verso il Bellano facendo questi doppi sensi, queste cose, non ho proprio capito il nesso. Sì, purtroppo non c'era nesso se non quello di cercare di intaccare l'integrità di questi giocatori inducendoli in errore. Il Bellano ha sicuramente giocato molto bene e la sua vittoria è stata decisamente un colpo di fortuna, diciamo che hanno avuto no, nel senso, non possiamo dirlo, hanno avuto delle occasioni diverse e sostanzialmente non hanno giocato per circa 89 minuti, poi in un'azione di contropiede il Bellano è riuscito a realizzare il gol decisivo. Cosa ne pensi? Sì, il calcio è stato spettacolare, ma mi soffermerei anche sulla tifoseria del Bellano, che sfottevano i bellunesi dicendo dei vostri solo uno è bello, cioè anche qui comunque siamo caduti nella solita provocazione e siamo arrivati come sempre dove si vuole arrivare. E questo è brutto, perché soprattutto nel calcio amatoriale noi ci aspetteremmo un comportamento civile, un comportamento migliore e rispettoso nei confronti di chi sta giocando queste partite, che sebbene non professionisti però fanno il loro lavoro. Certo, abbiamo capito noi seguendo il calcio amatoriale che dove girano i soldi c'è il marcio, ma stiamo scoprendo che c'è il marcio anche dove non girano i soldi. Vi ringraziamo e al prossimo episodio. Sì, scusate, ma purtroppo durante... È successo il fattaccio. È successo... È fuori gioco, attenzione. Non mi pare... Secondo me è fuori gioco. Oddio, aspetta, forse lo era, davvero. Adesso, cioè, comunque l'Austria sarebbe passata in vantaggio... Ma ancora non lo sappiamo. Con un gol del cazzo, però adesso c'è un check. C'è un check, potrebbe, esatto. Potrebbe dire che capito, forse a questo i francesi gli danno 12 milioni all'anno, capisci? Capisci? A chi? A Donnarumma. Donnarumma. Vabbè, diciamo che... Diciamo che è stata un po' un'impappinata generale, diciamo. Insomma, comunque l'Austria sarebbe in teoria passata in vantaggio. Però guarda che il fuorigioco non è proprio campato in aria. Perché... No, secondo me era fuorigioco. Però dicono che, che gol. Però non fermate. Aspetta, non stanno ancora facendo il check. Stanno facendo il check. L'arbitro. Non mi pare. No, no, il check. Aspetta, è controllo gol. VAR, controllo gol. Però suonano la trombetta, quindi Michela, o sono austriaci o l'Italia ha fatto gol. Michela, pur di non fare i supplementari in vorrebbe diretta, anche che l'Italia perdesse, va bene. Sì, la vedo proprio. No, vabbè, cioè nel senso che non tu c'è lo ancora fa, il check, lo butta comunque per terra. No, no, c'è, no. C'è ancora, ah, il no, check. Sì, c'è l'arbitro che aspetta il check. C'è il check, ragazzi, aspettiamo perché che poi c'hai il dubbio, valla a vedere, giusto? Insomma, è vero Marco Bianchi, tu lo andresti a vedere. Sì, anche se col VAR abbiamo oramai litigato, quindi esatto, infatti non c'è questa settimana non c'è il VAR. Il VAR no. lo va a vedere. Ma io ho sentito un po' frustrato quel VAR. Ma che nelle fa? Puntate perché ha fatto il quadrato? Perché adesso l'hanno chiamato. Non è del gol. No, hanno chiamato il VAR. Hanno annullato fuori gioco. Hanno annullato il gol, raga. Ve lo dico che hanno annullato il gol. Comunque, cioè, come faremo a vedere una partita? Sono un po' incazzati gli austriaci, anche giustamente, perché stava davanti a tutti. Fuori gioco. Michela, spiegaci perché era in fuori gioco. Perché era fuori gioco. Stavano a giocare a un'altra partita. E quindi ero fuori. Quindi hanno tirato il gol in un'altra partita. Niente, non dormiremo mai, Mauro. Però forse ci riprovano, attenzione. Perché ma saranno un pelino incazzati, no? D'altronde se era fuori gioco, poi incazza quanto te pare. Cioè, il VAR esiste per questo, insomma. Ma io sono d'accordo, chiaro, però. Giusto. Ragazzi, stupide creature. Disperazione austriaca, data da un VAR. Sarebbe stato meglio bere un caffèino al bar che avere questa notizia dal VAR. Sono rimasto inebetito questo giudizio arbitrale. Che bella canzone, veramente. Sono rimasto veramente inebetito, scusate, ma non me la sarei mai aspettato dal VAR. Dal VAR, è vero, che di solito, insomma, diciamo che il suo obiettivo adesso non è più regolare le regole del calcio, ma è quello di sterminare l'umanità, mi pare di aver capito. Questo. Infatti, sono d'accordo con te. Va bene. Sbano, allora ricapitoliamo un attimo un po' la questione. Allora, siamo ancora 0-0. L'Austria ha cercato per un breve lasso di tempo di rialzare la testa, di riprendersi dalla delusione, cercava di spingere ancora, ma adesso siamo ritornati rigorosamente nella metà campo asburgica, dove niente, però ci manca quell'ultimo metro, capito? Noi continuiamo ad affondare, però ci manca quell'ultimo, quel guizzo finale. Già c'è pure quella crucia di palia nel primo sì, tempo. Per carità, le statistiche sono a nostro completo favore, però no, senza il gol non basta. Non tanto, però è entrato Verratti, quindi Verratti, succede. Che è una sorta di un vezzo. Da dove viene? Da Monterotondo, Verratti? Non credo proprio. Perché? Ah, ok, perché così, spiega, che ne so. Perché dice entrato Verratti, pensavo che fosse una... Ah, perché ce l'ha detto tra l'altro quindi... salutiamo... Mica ho detto entrato Henry Cavill. Il Real Monterotondo Scalo, che... L'hai già detto è entrato in Serie D. Però scusami Michi, Real, non Real, perché Real. Capisco che però Real, Real Monterodondo Scalo. Real Monterodondo Scalo. Tra l'altro da Real Monterodondo Scalo a Real Madrid è un attimo, esatto. Cioè, mi parlano pure uguali. Tra l'altro mi pare che avevamo in archivio l'inno ufficiale del Real Monterodondo Scalo, se non sbaglio, da qualche parte, non so. San Giovanni che si è venuto su e giù questi paesi. Scusate. Dimmi un po' che si è trovato. Aspetta, che c'è, aspetta che c'è l'inno. Zitta. Faccio sentire l'inno ufficiale, dai. No, ma canta Michela, noi suoniamo e tu canti. Ah, vai. Tutto quello che so. Ricomincia la che c'era piaciuta. San Giovanni che si è venuto mezzo stimo un terutunesi. Dimmi un po' che si è trovato. E poi non me la ricordo più. Ma scusa Michele, no, andando ognetto nostro, no? Come l'ha presa questa è cosa bello, San Giovanni? Bello, Gagliardo, è tosto. Ho capito, però qua c'è rivalità. Vabbè, ma quello San Giovanni è così. È decollato? È decollato, sì. Ma questa che è tipo la piano alla Bontempi. La Blair praticamente. La fantastica Bontempi. La Bontempi. Che Bontempi, vi ricordate? Sì, sì. C'aveva anche le basi. Attenzione, grande apertura sulla destra, ma niente. Secondo me sono stanchi. Sono distratti, sono stanchi. Stanchi. Vaccini è incazzato. Ti il cazzo come noi. È arrivata una partita vera, prima o poi doveva succedere. Allora ragazzi, diciamo. Mancini comunque l'ho visto. Mancini, sbrigatevi che Michela deve andare a dormire. Mi sembra chiaro. Ha detto sì, il labiale diceva proprio così. No, diciamo una cosa che. C'era molto entusiasmo. Attenzione, questa azione mi piace questa azione. Può succedere qualcosa. Forse no, davvero, qualcosa, no, davvero, forse no, davvero, qualcosa, davvero. Non è successo un cazzo. Ci siamo quasi. E anche lui ha detto: ma dai. Porca miseria, ha detto. Porca miseria. Mannaggia, mannaggetta. Si comincia a riconoscere l'Italia vera. Nel frattempo Olivia ci riempie di foto di cucuzze corte da lei, quindi io direi che possiamo cambiare. Perché foto cambiare. Di zucchine pareva brutto. Cucuzze, a casa mia si chiama Cucuzza e quindi chiamo Cucuzze. Tutto Cucuzzaro. Michele. Tutto Cucuzzaro. E quindi niente, fra un po' il prossimo premio sarà, oltre che il cavolo verde, la Cucuzza mondiale europea. Nuova azione dell'Italia, forza stavolta segna, ma non ce la fa. Attenzione, non bel contropiede. Non ce la fa. Purtroppo manca il guizzo. Non so, speriamo che. Dovrebbero fare la porta dell'Austria 7x7. Allora ma forse. Quindi i supplementari quanto durano? Mezz'ora? Troppo, mica durano troppo per te. Cioè. Vediamo sempre la cosa del concorso. Cucuzza! Se riusciamo a far vincere questo cavolo verza. Lei sta ascoltando? Sto ascoltando Runtime Radio. Bravo! Lei ha vinto un cavolo verza. Ho vinto un cavolo verza. Ma no, che santa, come se fosse una persona che conosci. È una persona. Avrei voluto rispondere una scoreggia, ma non mi sono trattenuto. Ti facciamo una domanda difficilissima. Sì, al microfono. Che solo tu puoi, a cui solo tu puoi rispondere. Chi ha vinto l'Eurovision 2020? No, 2020. Non so se l'ho già detto, mi pare di averlo già detto, però credo che abbia vinto l'Italia. Bene, bravo. Che abbiamo vinto noi. Noi. Che siamo vinto noi. Con i Naziskin. I Naziskin che adesso combatterà. Esatto. Con altri mezzi. Aspetta che ti faccio. Guarda, io oggi sono completamente fuori, non so neanche che cosa sta facendo l'Italia, quindi se mi aggiornate sulla partita, già che mi avete telefonato. Stava perdendo, ma poi non perde più. All'Austria è stato annullato il gol. Praticamente Draghi ha telefonato al VAR e ha detto che non era gol. Gente che si butta cercando di reclamare i rigori, ma niente. Bene. No, ti volevo. L'ultima domanda per Sant'Agostino, poi lo salutiamo. L'ultima domanda per Sant'Agostino, perché lui è grande conoscitore di trash mondiale. E quindi volevamo dire ciao. Ciao 2020. Ovviamente. Grazie, ritorni alla sua cena fatta di colesterolo e non so cosa. Arrivederci. Saluti l'Abruzzo. Saluti a tutti dal mondo dei videogiochi qua che sto oggi una giornata che rimarrà nella storia. Pubblicizza, dato che ci siamo. Sono al museo del videogioco di Avezzano, che è inaugurato oggi, che è una cosa veramente fuori da ogni possibilità di immaginazione. Ci sono quasi 200 cabinati esposti, 40 macchine storiche, un centinaio di flipper, una cosa veramente incredibile. Forse vi faremo vedere qualcosa in qualche video, okay. Si spera, in archeologia informatica. Va bene, va bene. Mi raccomando, magna le rustelle. Già fatto. Quindi il museo del videogioco di Avezzano è inaugurato oggi, e quindi insomma, ragazzi, quando volete andateci, che è divertente. Noi sicuramente ci andremo. Grazie Carlo. Ok, ciao a tutti. Ciao. Prego Maurizio. Tocca a me. Maria. Butta basta. Maurizio, la riconosce sta canzone? Come no, è quello che stendevamo tutte quante le tele quando facevo il Maurizio con tanto ciò. Bravo, esatto. Ma mi dicono che lei adesso è diventato il capo ufficio stampa della S Roma, è vero? Ma che davvero? Eh sì. Ma ci ha manco fiato per respirare. Mentre il signorino, innanzitutto, è stato per respirare, semmai non c'era lei, perché io insomma sono una certa età, però mi trovo ancora in forma. Beh, insomma, non si direbbe. Diciamo, non si capisce neanche quello che dice, però. Infatti. Va bene, buon lavoro. Che io sto facendo questa cosa per la Ette Roma. Ette Roma. Ette Roma. Meno tanto veramente si fare. Va bene, arrivederci Maurizio, grazie. Andiamo alle stupide creature che adesso ci faranno sentire il più bel inno dedicato alla S Roma, giustamente. Uno dei, penso, il più bello proprio in assoluto, quello che è talmente bello che diciamo che rispetto a quelli classici dei Venditti, che è un rosicone, non lo fanno sentire perché Venditti è un rosicone, appunto. Quasi belli come quelli della Lazio. Qui c'è un altro fuorigioco. La mia diretta è bloccata. Roma, siamo belli come il sole, anzi belli di più. Siamo atletici, profumiamo di buono, anche quando sudiamo, anche di più. Siamo fantastici, siamo insuperabili. Siamo insuperabili. Non mettiamo la freccia mai. A Est Roma, yeah. A Est Roma, yeah. Bellissima. Io penso che tanti inno immediato ufficiale. Assolutamente. Io penso che tanti che non sono della Roma adesso sono diventati della Roma anche grazie a questo inno. Esatto. Che avete... Gente che dall'Abruzzo sarà diventata della Roma. Della... Ma che dico, dal Molise. Attenzione! No. Niente. Momento fuori gioco comunque. Quindi in qualsiasi caso. Il nostro Michela, caro... perché il guardaline, che soprattutto che cosa fa un guardaline, ha alzato una bandiera e l'ha agitata così forse? No, secondo me la prima domanda è la più importante. Cosa fa un guardaline? Guarda le linee. E perché una bandiera a scacchi gialli e arancioni? Si mette lì e disegna la riga. No, e guarda. E detto. Quindi passa il tempo. Però c'è la domanda da un milione che finisce la partita. Da un milione di euro dollari, e cioè. Perché un guardaline che guarda le linee, come diceva Walter, c'ha la bandiera a scacchi? Non dovrebbe essere a linee? C'ha la bandiera a scacchi perché nel frattempo gioca a scacchi. No, perché lui dice tra un guardare le linee e gli altri dà anche il via alla corsa, capito? Ah, ok, sì, ok. Sbano, prego. Però siccome la linea è continua, non possono, le macchine non possono oltrepassarla. No, esatto. Quindi devono non possono sorpassare. Sì, esatto. Partiamo da Andromaca, che no, poi io la sentiamo. Da Andromaca, esatto. E niente, sta sentiamo, lì. Sentiamo cosa fa. Però se sentiamo continuiamo a influenzare. È vero, infatti io non chissà se ha previsto, però, cioè, chissà se ha previsto il gol oppure il gioco, oppure per esempio la, questa cosa l'ha tratta in inganno, perché il gol c'è stato tutto sommato. Comunque c'è bisogna, gente che bisogna nella raccontare, scusami, che ma bisogna apprezza. Raccontare pure le cacche, cioè, le cacche. Non lo so, a me mo chiedi, sei te che l'hai chiamata, non lo so, però, perché la cacca poi va considerata come gol sono annullato. Le cacche di Lumaca, non lo so, no, Michela, e vale come gol annullato, le cacche di Lumaca no, sono no, non le cacche, quello che sta partita, io avrei davanti, io ve lo posso dire, perché mia nonna mi faceva pulire le lumache prima di farci il le sugo. Puliva, mamma mia, alla ciumacata, ovviamente. Sì, ovviamente alla ciumacata, grandissima festa di Montrutondo che a si cui... è portata via il COVID, ricordiamo, che si è portata via il COVID. Ma la nonna o la festa? No, la dove festa, c'era ma... il logo più tutto, bello però. Del mondo, perché c'era sta ciumaca con le tette che strusciava. La ciumaca è la lumaca, la lumaca, sì, con le tette. Ma adesso il logo della ciumacata ve lo faccio avere sulla chat, indimenticabile logo. Vabbè, ma che stavi dicendo prima? Dicevo che la cacca delle lumache, vabbè, no, c'è prima che Melanie apprezza moltissimo il calcio spiegato da me. Benissimo. E quindi quindi ti vanti di questo fatto, sì, è il famoso calcio per donne, esatto. Non solo per donne, diciamo che non è che solo le donne non capiscono il calcio, anche molti calciatori non stanno dimostrando. Non abbiamo, non abbiamo parlato di capire o non capire, di spiegare, spiegare. Grazie della birra, lei è molto gentile. Però vabbè, comunque sono contenta che il calcio spiegato da me è il, farò le nuove regole del calcio, e vorrei salutare il mio insegnante di educazione fisica delle medie, che delle superiori anzi, che ha provato in tutti i modi a spiegarmi le regole del football. Io mi fermerei, no, ad baseball, approvato, attenzione. Del baseball e football e baseball, no, stessa del cosa. Baseball e, l'ho e tu non l'hai capito. Io l'ho visto un giorno proprio, però sì, perché proprio del baseball, però Michela continuava a gridare hat, hat, hat, e lanciare la palla ovale verso quello, verso il battitore, e la cosa non andava bene, continuava a correre a casaccio nel campo. Sì, sì, no, perché certo questa punto sta col casco l'imbottitura, pensate, aver visto quel volto veramente affranto dopo. Ma sentiamo tutte e tre le stupide creature per ora presenti, qual è il vostro sport preferito? Napoli. Sono d'accordo. Hai capito? Sì, sì. Il ramen. Il ramen è anche il mio sport preferito. Siamo all'ottantesimo minuto e non succede niente. Ma non è vero che succede. 10 minuti lo separano dal sonno. Chissà se ci arrivi. Vabbè, ciao. Canta pure tu, Sbano. Io vi rispetto troppo. Io vorrei, ma so che non devo. Vabbè, basta. Allora, prima di tutto non è vero che non succede niente, perché succede tante cose. Ne succedono, esatto, tante di cose in sbagliate, ma succedono. Ragazzi, esatto, mi permettete di salutare Shuren, che ci ha raggiunto. Non so se è la prima volta che ci segue in bravo, diretta. Salutiamo. Ciao, Shuren. Sappiamo bravo, che bravo, Shuren. Tu vai a dormire presto, quindi io vengo con te, vado a dormire anch'io. Bravo. Allora, qui un anno di brutto. Che succede? Che succede? Che succede? Dici un po', che no, succede? C'è un'azione dell'Italia. Di quelle vorrei, ma non posso. Esatto. Chi è che urla poi? Non sentivo. No, infatti no. No, e Shuren ci dice che un anno di brutto, quindi voleva sapere da noi. Ma secondo me c'è qualcuno che si sta menando. Anche da noi ieri sera. Attenzione, cross al centro! Un bel gesto atletico. Ecco, adesso gridiamo anche noi, perché noi arriviamo ovviamente dopo. Boh, è rimasto lì appiattito il nostro povero. Diciamo, bella la rovesciata. Intanto qui c'è un austriaco ucciso, però, insomma. Un austriaco morto? Gli ha fatto pepe sulla chiappa, guarda bene. Mamma mia, come l'ha squisciata male la palla. Vabbè, quindi. Vabbè. Però metti il gesto atletico, cazzo, guarda che bel gesto atletico. Comunque c'è scritto, c'è un tabellone con scritto 1114. Entra, cosa significa? 14, esce Ciro. No, esce Ciro è 17. No, non esce Ciro, esce Ciro. Ah, esce Ciro. Oh. Sono due entra sostituzioni. Andrea Belotti. Grande Ciro. E Ciro esce Ciro? Di più facile. Perché è stato immobile tutta la partita. Giustamente, ridete, forte, ragazzi. Raga, che divertimento. E poi esce Berardi ed entra Federico Chiesa. È entrato la Sacra Chiesa italiana, ecco, quindi è l'ora di pregare, ragazzi. Eh sì. Beh, ma d'altronde serve mettere energie fresche per provare. Oh, attenzione che qui serve sempre. Attenzione. A tutti e tiri. E no, ma ti sei perso la palla. Ma come si fa? Ma allora sei un po' baluba. Comunque era il momento di far scendere in piazza la Sacra Romana Chiesa con il suo potere temporale. Il termine baluba, da quant'è che non lo sentiamo? Adesso ragazzi, adesso entra in gioco il concordato. Quindi non si può più. Ecco. Alleluia! Mi sembra è finito qua. Alleluia! Era un jingle, diciamo così. Insomma, ci stava. No, è il rito bonsai questo. Ah, rito bonsai, ok. Francesco, c'hai qualche aneddoto, qualcosa che ti sei segnato, qualcosa che ti sei appuntato? Francesco? Va bene, a posto così. La serata incomincia. Si comincia a sentire la stanchezza del novantesimo. Sì. Allora, nel frattempo io ho trovato la locandina della ciumacata. Così vi faccio vedere che ciumacata hot che facevano ai tempi. Se la trovo. Non parlare fino a che non hai fatto nel sacco. L'ho trovata, solo che non sapevo. Stiamo perdendo, solo che se n'è andata. Stiamo perdendo il ritmo, e questo ci dimostra quanto in realtà mancano i contributi stasera. No, comunque è una partita lenta questa, partita senza gol dell'Italia, la partita triste. Intanto, ragazzi, arriva in chat anche Andrew che ci dice: Chi ha fatto palo? No, il palo l'ha fatto Immobile nel primo tempo. Però poi dopo gli altri invece che hanno fatto palo hanno fatto loro direttamente gol. Però poi l'arbitro ha detto che non va. Allora, Melanie ci fa una domanda. È per te questa, che io non ho capito, però risponderò lo stesso. Ma siccome Ciro è uscito andando ai supplementari, può tirare? No. Giusto? No. Allora, Maradona avrebbe tirato lo stesso. No, Maradona sarebbe venuto e avrebbe tirato lo stesso. No, se vieni sostituito non puoi tirare i calci di rigore. Non puoi, è la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco, però. Puoi solo tirare. E per quello dico, Maradona avrebbe tirato lo stesso. Esatto. Guarda un po', Oggi Pizzi non me le fai spiegare. Tutte. È caldo. Non so più la farina della. È troppo concentrato a biastimare contro di me. Perché dici questa cosa? Beh, perché sì, è così, insomma. Perché dire. È un dovere coniugale. Sì. È così, vabbè, qualsiasi cosa. È così. Torniamo invece a parlare di Maradona, perché ricordo che c'erano dell'operetta, insomma, dedicata a Maradona. Non so se addirittura l'operetta. Sì, la dico sempre più difficile. Forse lo sanno le stupide creature, perché sono il bipedoro e faccio gol di mano. E c'è questa così a caso. Sono stato un grande atleta, correvo sempre dietro alla baleta. Un piede, avevo un conto in banca. Oh! Fine. Mi è cresciuta la panza. E cambiando modalità di tiro, ho cambiato sport. Sport invernali. Nevica. La mano di Dio. E questa cosa è il nevica. E si ricollega un po' a quello che diciamo prima. Esatto. Ma era bella l'operetta con l'attore principale, il cantante principale, che respirava appena i polmoni la neve che scendeva dal cielo. Ok, ma Francesco è tornato? No, non credo. Ma ci sono sempre stato, solo che avevo dimenticato, spento. Come al solito. Mi sembra giù, Va bene, nel frattempo io vi ho condiviso la foto della nostra ciumaca hot su Crampi, ci sono i crampi. Si chiama ciumacot, infatti. Ciumacot, si chiama perché ciumacata. Hanno le ostetriche gli austriaci? Non lo so. Sta partorendo un calciatore austriaco sul campo, allora. Forse un pallone nuovo. Potrebbe essere un messaggio politico e sociale molto importante, anche come. Guarda come l'ha buttata, come l'ha spinto. Siamo all'89esimo minuto e non succede niente. 9 minuti ti separano dal sonno. Guarda queste tutine, il numero 19 ha partorito. E vedi, oh, ci hanno scritto Stetric dietro la schiena, non vorrei insistere. E mi raccomando, non tagliate subito il cordone ombelicale. E femmina! La chiameremo il De Garda. De Garda. Nome solare. Il giocatore viene portato fuori. A vedere il pupo appena nato nell'incubatrice. Comunque c'è l'asburgico circoletto che la RAI mette in sovraimpressione, che è un divieto d'accesso, io non vorrei insistere. Vabbè, ma è così, cioè. Questi colori così ambigui. Te l'ho detto io, cioè, quello che si sfragnava la gente e poi se leva la cinta dietro. Questa suonata di piano mi ricorda molto. Come si chiamava quel gioco? Ah, To the Moon. Mai giocato. 5 minuti di recupero, Michela. Mi spiace. Hai 5 minuti per sperare che non ci siano i supplementari. Ma la vedo un po' a questo punto la vedo dura. No. Esatto. Il cazzo. Vai andare, no, ma io avevo prenotato il pub alle 23. Ma resterò sveglia. Sì, però basta per cantare. Voi. Beh, no, oramai è così, cioè, è presa dal delirio delle stupide creature che gli danno il lancio e lei. Vai Michela. Di nuovo la bandiera a scacchi. Resterò sveglia soprattutto perché il mondo non può vivere senza le mie regole del calcio. Abbiamo appena deciso che puoi andare a dormire anzitempo. Infatti, guarda Michela, è finita la partita, ha vinto l'Italia. Va bene così, hanno detto. Ho detto anche Mancini, detto va bene così. Oh yeah, yeah. C'è scritto oh anche yeah, grazie, yeah. C'è scritto sul tabellone. Molto bene, grazie Michela. Grazie Michela. Insomma, vabbè, ricapitolando, Sbano, mancano ancora 10 minuti. No, abbiamo 5 minuti. Già consumato il primo minuto di recupero. Quindi, fra 4 minuti ne dovremmo vivere altri 30 di recupero. Ok, di supplementari. Sì, scusate. Bene. Non c'è il golden goal, vero? Me lo confermate? No, non esiste più da. Penso che sia stato applicato solo in un. Un torneo è stato applicato ed è quando abbiamo perso la finale degli europei contro la Francia. Francia no, era Francia 98, no? O erano gli europei? Europei. Va bene. C'era Zoft. Zoloft. Una vergogna che ci portiamo ancora dietro oggi, aver perso contro una nazione senza il bidet. Esatto, noi sappiamo. Ma in realtà tutte le nazioni non hanno il bidet, quindi per noi è una vergogna sempre. Scusate, io ho una domanda tecnica, ma al di là del fatto che ce la siamo mischiata un po' tutti, ma chi l'avrebbe dovuto ospitare questi europei? Questi qui? Questi erano stati formulati così. Ah, ok. Essendo il 50° anniversario del torneo del campionato, del torneo europeo per nazioni, era stato deciso di farlo in maniera del tutto distribuita. Ma mi ricordo male che prima c'era tipo in ballo l'Ucraina, poi per qualche motivo si resero conto che non erano proprio adattissimi. Può essere. E ci hanno ripensato, si sono inventati sta vaccata. Può essere. No. Il torneo in origine era sempre stato così. Ok. Però chiaramente sarebbe stato organizzato meglio. Purtroppo poi il Covid, insomma, sapete. Quale Covid? Covid, sì. COVID. Quello che si è portato via gli europei del 2020. Tra l'altro il Covid. Anche Simone Cusella. Si è portato via pure Simone Cusella. Tante cose si è portato via. Tra l'altro il Covid, che comunque ha segnato in maniera indelebile. Ha segnato il Covid? Sì, ha segnato, esatto. E che si meriterebbe una canzone al Covid, insomma, perché ha segnato questo. Bella sta batteria, collega. Molto anni 80. Covid-19. Covid. È arrivato il momento della nostra analisi sul Covid. Covid-21, Covid-21. Vigore. Arriva tutti gli anni. E mo so cazzi amari. Cazzi nel culo, cazzi nel culo. Covid-22. Ah, quindi ogni anno. 23, 24. Tutti, ma proprio tutti. Tu mi porti sempre le belle notizie, anche se si invertono i poli. Quanti morti ci sono stati oggi per il Covid? Non ti preoccupare, non potrà passare, non potrà passare. Tranne se ti fai punturare, sai. Punturare, sai. AstraZeneca. Zeneca. Io mi faccio di Moderna. Sei un complottista! Ti puzza la vita. Covid-19, Covid-19, Covid-23, Covid-23. È finita. Andiamo a Berlino. Io non so come dirglielo a Michela, però qualcuno. Michela. Lo so, l'ho capito da sola. Comunque, stavano finendo di cantare. Tra l'altro, avete dimenticato il Pfizer. Però, vabbè, insomma. No, comunque, andiamoci piano con AstraZeneca. Qua ce ne sono tre. Tre, esatto. Cioè, siamo tre AstraZeneca e un Pfizer. Quindi. Bravi! 3-1. Allora, io adesso però mi vorrei documentare con Marco e Francesco, che sono quelli che sono i responsabili di questa cosa. Oggettivamente, per la precognizione, diciamo, dell'animale, vale il risultato finale? Perché il risultato finale, ricordiamo, è 0-0 comunque, cioè i supplementari servono per determinare chi va avanti. Il problema è che per le leggi quantistiche abbiamo ascoltato la lumaca che stava mangiando, quindi abbiamo inficiato nel regolare svolgimento della funzione della lumaca. Quindi secondo me dobbiamo aspettare fino alla fine. Marco, scusa, io ti ricordo che l'accordo col ristorante cinese è chiaro: entro le 23 gli dobbiamo portare la bestia per cucinare. No, la lumaca, per la zuppa, sì. Lumaca, sì. Ma io parlavo del cane. Ah, il cane, vabbè. Il cane, ricordate? Le lumache che ci fanno? Come no? La zuppa di lumache. C'era lo zio di Michela che era convinto che in un posto di Monteredondo dove aveva aperto il ristorante cinese non c'erano più cani e gatti. Non vi darò mai il mio cane per i vostri. No, tranne quella volta che siamo andati da Dinzu e ci hanno visto entrare col cane, ho detto: ah, questa si è portata il cibo da casa. Non è ammesso cibo da casa. Appena visto, ho detto: di a me lo cuciniamo. Bravi, noi. Bravi. Comunque, no, dobbiamo aspettare la fine della partita. Esatto. Allora, come si svolgono i tempi supplementari, Michela? Io ho bisogno di un caffè, perché se non ce la faccio. Vabbè, comunque, i tempi supplementari sono altri 30 minuti di partita. Divisi in 15 minuti per due tempi. Mico io, non ho visto. Raga, questo lo so bene perché io ero al Circo Massimo alla finale dei mondiali. Che non c'entra niente, però. E stavo lì e giocava insieme agli altri. No, però ci sono stati supplementari. No, sì, è vero. Sì, ci sono stati supplementari. Pure i rigori, hai ragione. Windows, vedi, Windows. Quindi, purtroppo per te, Michela, qualcuno deve vincere, sennò ci stanno pure i rigori. Sì. C'è la lotteria dei rigori. No, ma a sto punto godiamoci i rigori. Scusa, pure come funziona la lotteria dei rigori? Ma però il primo che fa gol finisce la partita, no? No, l'abbiamo detto prima. Il golden goal non c'è più. Domanda che ho fatto io perché non è Michela, come funziona la lotteria dei rigori? La lotteria dei rigori. Dove si compra il biglietto? In tabaccheria. Salud. botteghe che finisco per via, anche da mia zia. Immerceria dei rigori, dove vince quello che sbaglia di meno, dove vince quello che segna di più, dove vince chi ha più culo. E quello è importante, eh? Ricordate che nello sport ringrazio le stupide creature per aver spiegato al mio posto la lotteria. No, non l'hanno spiegato, ti hanno dato degli indizi. Perché tu ci io devi non dire l'avrei di saputa spiegare meglio. Ma neanche questo non abbiamo dubbi, insomma. E vabbè, però comunque cioè, io non se ho capito, indietro, no? Se questi sta lotteria, fanno la lotteria, ma c'hanno già un sacco di soldi. Ma perché devono fare la lotteria? I calciatori. No, perché lei dice la lotteria, estraggono e gli danno i soldi dalla lotteria, capito? Esatto. No, estraggono chi passa, non estraggono soldi. E il secondo premio? Ah. E il secondo premio è una vacanza alle Maldive. Beh, tutto sommato, non è più le Maldive di una volta, però insomma. No, tra... le Maldive di una volta. Cioè, tra l'altro ieri c'era un articolo che diceva l'isola privata più bella d'Europa è in vendita e costa meno di quanto tu possa immaginare. Ma io penso un fantastiglione, quindi comunque costa sempre più di quanto ci possiamo permettere. Beh, sicuramente più del camper che ci dobbiamo pagare. C'è un rumore, c'è un ritorno. Sì. C'è la massa. Ah, è il tuo computer? No, è di fuori. Ah, ok. Perfetto. Va di bene. Fuori c'è una massa. Ecco, no, perché per capirci, insomma, perché sennò è un macello. Basta sì, che non è il tuo computer. Poi vi spiego che cos'è, però adesso una bestemmia. Non ve lo posso spiegare. Mentre, ragazzi, dato che vogliamo guadagnare anche un po' di tempo per cercare anche di riposare un po' la voce, perché per un secondo, sì, vi facciamo sentire un brano che non era previsto, non era scaletta, però ci è pervenuto oggi da una certa Chiara Paiala, non ricordo bene. Comunque è il brano della settimana, della prossima settimana. Lo facciamo sentire con un giorno di anticipo, esatto, in anteprima. Come fanno su Radio DJ che perché, sì, esatto, questa è una cantautrice italiana che canta in inglese, che però ci ha mandato una mail, ovviamente non a noi come Rantanio Radio, ha scritto sta mail a tutti quanti dicendo qualcuno mi risponderà. Giustamente, ed è bello perché praticamente vabbè, ascoltate questo il brano e poi torniamo. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao a tutti, un saluto agli amici di Runtime Radio. Io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Vi presento il mio primo singolo, scritto da me, dal titolo It's Gold. Potete ascoltarlo su tutti i digital store e potete seguirmi sul mio canale YouTube Chiara Palaia e su In Rock. A me non resta che augurarvi buon ascolto e vi ringrazio. Ciao. My segnato l'Italia. Il brano della settimana ci ha portato fortuna, rimettilo. È il culo che c'è. Questa è la traduzione esatta. Segnato Enrico Chiesa, ragazzi. Al 94. Enrico era il babbo? Cioè, è il babbo. Ah, già hai ragione. Gian Domenico Chiesa, chiamiamo. Chiesa, va bene. In occhio scivolante. Quanto un golasso, bravo. Pim, proprio. Guardiamo al rallentatore. Lo sapete qual è il problema? Questa bella azione. Non a caso ha segnato il numero 14. Io ho detto che segnava il concordato, infatti. Chiesa, credo, non lo so, non ho letto bene il nome. Chiesa. Lo sapevo che Chiesa andava bene. Ha visto la luce! Ha visto la luce, Chiesa! Ha visto la luce! È sceso in campo. Il problema è che adesso c'è tutto la metà del, insomma, c'è ancora un sacco di tempo, può succedere ancora di tutto, però insomma, come dice, meglio sta un piede avanti che un piede dietro, insomma. Non so se Marco Bianchi è d'accordo con questa filosofia che di vita. Il piede dietro, poi insomma, bello. dipende sempre dove te lo metto, dove poi finisca il piede, esatto. Però tendenzialmente è un detto che si confà perfettamente con una canzone uscita nell'81, si intitolava proprio Piedi. Vorremmo farvela sentire, anche se chiaramente non possiamo sperare nell'arrangiamento completo originale, però si intitolava Piedi. Ne siamo onorati. I piedi mi servono per deambulare, al sabato li uso per ballare, ma abitualmente per camminare. Sono scarso al calcio, ho due piedi sinistri e sono destro, sono destro. Ho i funghi sui piedi, ma li lavo con saponi speciali, ma non passano questi funghi sui piedi. Piedi, quando resto senza benzina, cammino coi piedi. Veramente molto bella, se non fosse per Skype che fa schifo, diciamo, Microsoft, oltre a far uscire Windows 11 che stai per far uscire, fa uscire anche un qualcosa di decoroso con la quale Skype 11. Le persone possano fare una connessione radiofonica anche, insomma, multimediale. Ma quindi non, guarda, è finita questa partita? No. Non c'è più il gol del ridillo, se lo chiedi un'altra volta forse ti rispondiamo di sì, capace. Capito, quella è la mia tattica. Ah, okay. E poi perché strilli? Intanto non decidiamo noi, quindi ci può stare. Devi solo sperare che non pareggi l'Austria. Ecco, tipo adesso, sta cercando di tipo, fare tipo adesso, momento, sì. Tipo adesso, ma no. Attaccate per... Pizzi, guarda, io intanto ti posso dire che con Windows 11 ci sarà integrato direttamente Teams in Windows, quindi praticamente hanno deciso che Skype deve morire. Beh, giusto, perché fa schifo e quindi sai. Beh, però l'abbiamo usato per diversi questo Teams, che sarebbe? Diverse riunioni. È l'equivalente Microsoft di Meet di Google, di Zoom. Ah, quindi Zoom. Un'altra applicazione. Sì. Vabbè, quindi è l'evoluzione di Skype, cioè, secondo me l'engine protocolli diversi, però vabbè, insomma. Perché alla fine ci hanno messo 12 anni per farlo morire. Ma ricordo, io mi ricordo che quando ero piccolo funzionava bene, poi l'ha comprato Microsoft ed è un altro problema. Allora, funzionava bene perché una volta le nostre esigenze erano diverse, no? Nel senso, una volta poi cambiamo programma se andiamo avanti. Insomma. Esatto, poi insomma, vabbè. Comunque, in generale, io quando ero piccolo dicevo il brodo collo, cioè tipo pensavo che fosse il brodo di collo, esatto, che è una parte del infatti collo. Pensavo, quando la maestra diceva adesso prendete i fogli di brodo collo per fare il tema, io mi domandavo sempre, ma sto brodo di collo che ci fanno i fogli, come e veramente lo pensavo, non è una cosa che avevano un collo di carta e ci facevano il brodo. Mi sembra giusto, mi sembra normale, logico. D'altra parte, nel dopoguerra si mangiava quello che c'era, esatto. Brodo di capocollo. Ragazzi, io direi, visto che ci ho portato bene, mettiamo in loop il brano della settimana. Perché io non so più che dire. No, anche se devo dire che facciamo i complimenti a Chiara. A Chiara. Ok, perché dare nomi e cognomi? Magari non vuole, di cui tra no, come non vuole? L'ha detto lei nel messaggio. Tra l'altro, di cui abbiamo sentito le stupide creature aver tradotto in italiano, insomma, la versione in tempo reale. Noi è vero, magari è un brano molto pop, insomma, diciamo orecchiabile, carino, veramente ci fa piacere passarlo. Però, come giustamente Francesco sa, noi insomma negli ultimi tempi abbiamo un po' interrotto questa tradizione del brano della settimana perché. Per ripetersi di sole, diciamo così, di traumi. Il problema più traumi che sole. Il problema è che se non è citato nessun orefizio, a noi il brano non piace. Esatto. Insomma, mi ricordo che insomma raccontiamo spesso che praticamente la prima volta che abbiamo passato un particolare brano eravamo alla fine di Runtime by Night, questa trasmissione che noi facciamo il sabato sera dalle 23.30 fino a l'una e mezza, quanto che faremo quindi subito dopo questa diretta? No, assolutamente. Perché non andrà in onda oggi, perché non andrà in onda mai più, perché ma magari, realtà, magari Angela durata, che ci sta ascoltando se lo domanda, non ci siamo questa sera. Insomma, alla fine di questa puntata praticamente faccio sentire in anteprima anche in quel caso il brano della settimana che sarebbe entrato dal giorno dopo, e mentre che finiva questo brano, che era, a un certo punto si diventava sempre un po' più cattivo. Stiamo parlando per i cacchi nostri, quindi ce l'avevamo in background, sembra un brano tranquillo, cioè che non ci fai caso perché un sì, brano sì, quel rocchetto, pop, quel rocchetto melodico, un po' italiano, un po' melanconico, insomma un po' così, e poi piano piano diventa sempre più aggressivo fino a che a un certo punto, mentre che noi stavamo continuando a parlare, il brano andava per conto suo, insomma noi eravamo fuori onda e diceva giungiami le palle e ci siamo rimasti un po' un po' così, insomma, un po' basiti. Ma diciamo, probabilmente se continui, ma guarda, io non sono rimasta se continuavi la canzone, se continuavi la canzone di Chiara, probabilmente finiva con qualche altra, ciucciavi qualche altra. Ma okay, non va, si sa, ma, cioè, ma già bastava quello. Io non sono rimasta basita per niente. Perché non sei rimasta basita? Perché stava dormendo da prima. Sì, infatti, guardi che stava dormendo. Perché io me l'aspettavo che qualcuno ciucciasse le palle. E c'è sempre qualcuno che ciucciasse le palle. Sì, io sento subito. Maliziosi, le palle di Mozart. Infatti poteva essere perfetta. Sì. Infatti il brano era di un certo Mozart, ora che mi ricordo, vero? No, proprio... ma in realtà c'era proprio la canzone ciucciami le palle di Mozart. Che siamo tutti cantanti, Marco. Però c'era, stasera, la ricordo. La solo cantante. Attenzione contro Piede d'Italia, che però è finito male. L'avremmo saputo dai vicini. I vicini di casa non stanno facendo rumore, quindi non nel frattempo è stato ammonito il giocatore austriaco, che è importante perché. Ma neanche se ci si ferma. Cioè proprio tempo? Buttato per terra, proprio guarda neanche lo tocca, non se ne fa una ragione la povera Michela, perché giustamente dato che viene dato un extra time di 30 minuti gli avversari hanno il diritto di avere il tempo di pareggiare. È giusto, cioè. Come noi potremmo avere il diritto di farne ancora un altro. Ma perché tutta questa democrazia in uno sport? In uno sport, tutto in uno sport solo. Uno sport nazista, ricordiamo. Uno sport molto poco nazista. Democratico. Vabbè. Insomma, è l'unica cosa democratica che gli ma è gli sport non sono mai democratici, è sempre uno che vince e uno che soccombe, fondamentalmente. Quindi, insomma, alla fine. Finché vince il migliore è uno sport democratico. Quando poi c'è Moreno, di cui non sa il nome, che a un certo punto ha chiamato i compagni e ha detto: "Au!" Ha detto proprio così, esatto, si è visto il labiale. Beh, ma perché c'era questo bellissimo contropiede dell'Italia che è stato fermato in maniera, come posso dire, irruenta dall'austriaco, che è stato giustamente ammonito perché chiaramente secondo me con la cazzimma è entrato proprio con la cazzimma. Con la cazzimma. In realtà non lo ha quasi toccato. Che ragazza graziosa. Proprio perché non l'ha toccata, è entrato infatti, con la ragazzi tira l'arbitro, no? Vabbè, ma per Marco non li tocchiamo mai, cioè, quindi non è che lo fa testo, cioè. Lo ha malapena sfiorato, ma che ginocchiata. Gol! Attenzione! Calcio d'angolo! Attenzione, noi non sappiamo, ragazzi, non sappiamo, fino a che non lo vediamo. Il calcio d'angolo è stato terribile. Però qui Olivia conferma gol. Dal calcio d'angolo, attenzione, io sento che segneremo. Ho questa sensazione, attenzione. Sì, anche Cloaca. Me lo sento anch'io. Vai. Portiamo la palla indietro sull'angolo sinistro del campo, addirittura torniamo indietro, ma che segnato. Infatti, no, no, no, attenzione, riparte l'azione dell'Italia. Quindi, quanti minuti di ritardo, cioè, abbiamo ci tipo sono? Un'ora e un quarto. Michele, tu potresti già andare a dormire perché abbiamo esatto, tipo esatto, attenzione, attenzione, si gira. Eccolo, eccolo. Casino, gol, gol, gol. L'abbiamo visto adesso. Quindi, sono due i gol. Abbiamo capito che il portiere austriaco ha gravi defaianze sui tiri molto angolati al lato. Esatto. Potevamo capire un po' prima, guardiamo il montone, questa possiamo cosa così la scivola, il montone, tutti che si abbracciano, si baciano, si limonano, esatto, si appoggiano le parti intime verso parti intime e gridano le palle di Mozart, le palle di Mozart. Questo ragazzo austriaco è rimasto deluso, sta facendo la cacca in piedi, nel frattempo hanno ucciso Pessina dalla felicità, le botte, sì sì. Sì, Melanie Messina, Pessina, Pessina. Messina se la beviamo dopo. Non te la abbiamo una Messina, quella con i pistacci di sale? Esatto, esatto. Cioè, da qualche vabbè, parte. Bella comunque il suono di fisarmonica. Sì, è vero, Olivia, siamo veramente dei veggenti. Siamo dei veggenti. Non lo so, ma quanti cavolo di minuti stiamo indietro? Vabbè, salutiamo Michela che va a dormire, dato che tanto oramai la partita è consolidata, suppongo, giusto? Puoi andare a dormire. Puoi andare se vuoi. Vai, vai a dormire. Ah, mi state a cacciare. No, e se devi che fammi cacci? E che vediamo che è una sofferenza per te. Quindi va bene, quindi considera che c'è un altro quarto d'ora. Ok, quindi praticamente c'è un altro quarto d'ora nella realtà. Più noi abbiamo un quarto d'ora di ritardo. Io stavo giocando. Ma anche io stavo poi giocando. Niente vieta all'Austria di farne due. Esatto, e di andare ai rigori. È vero, Michele. No, comunque purtroppo c'ho una brutta notizia. Io venerdì non ci sarò. Per mannaggia. A meno che l'Italia non giochi alle 18, allora cercherò di esserci. No, perché dovrebbe giocare alle 18? Così. Perché sono, ci, sono due, ci sono due partite, una alle 18 e una alle 21. Venerdì e potrebbero esserci le altre. Ma anche altro perché la però, mia migliore amica. Onestamente, prima arriviamo. Vabbè, diciamo che torna tendenzialmente in Italia dopo due anni. Due anni. Covid. Io quindi due anni non la un vedo. Giorno aspetta, no? Non la vedo da gennaio da del 2020. Quindi insomma. Quindi vorrei, non so, due anni. Vorrei. Allora, è finito il primo tempo supplementare. E ricordiamo che da regolamento i tempi supplementari si giocano consecutivamente, quindi non c'è la pausa, c'è solo il tempo di scambiarsi il campo, bere un po' d'acqua, sputare a destra e manca, dare esatto, un po' d'acqua, perché poi non è che la puoi ingoiare così come nulla fosse, come niente insomma, fosse, come niente fosse, niente, niente, niente fosse. Vuol dire che non fanno l'ingoio in questo caso? No, no, okay. Basta però, magari insomma. E sentiamo invece le stupide creature ci raccontano. Ho visto un'immagine agghiacciante, scusate, ho visto Crudelia De Mon abbracciare Vialli. Crudelia De Mon abbracciare Vialli, me la so persa. No, probabilmente noi non la siamo ancora, la non l'abbiamo dopo ancora vista. Spero. No, è già passata. Purtroppo. No, ok. Avete perso una perla incredibile. Incredibile. Tanto c'era Ibrahimovic di vestito papà d'Italia e figlio austriaco che si austriaci li vedo un po' affranti e non capisco perché. Perché secondo me per un momento ci hanno creduto. E anche giustamente, perché giustamente comunque si sono anche portati in vantaggio. Il tempo di un fuorigioco e non. È lì Crudelia, la vedete? Forse stiamo per vederla. No, dov'è Crudelia? Dov'è Crudelia? Ma per caso tu intendevi Crudelia Mancini? Certo. Ah, ok, vabbè, ma loro sono amanti da tanto. Stessa intensità nello sguardo. Sì, sì. Beh. Stesse sopracciglia, stesse gengive. Stessi lobi frontali. Stesse spalle. I piedi no, i piedi come Jovanotti. Le mani come Piero Pelù. Il petto è più come Lucio Dalla. Le natiche mi ricorda un po' Pippo Baudo. Però effettivamente somiglia a Crudelia De Mon. Come intensità di sguardo, Guardiamo queste belle immagini. In tempo reale ognuno ha la sua riferita. Gente che sputa, più che una nazionale mi sembrano dei lama. Speriamo che non si tagli nessuno, sennò ci sarà da sputare. Ma lama uomo o lama donna? Non vorrei, però, secondo me ragazzi, dico adesso, abbiamo già vinto più o meno come cos'era un europeo con la panchina che festeggiava e un gol che è arrivato da, non so se vi ricordate, da porta a porta, Francia-Italia, qualche anno fa. Sì, ne stavamo parlando prima, infatti. Da porta a porta, bellissimo, quindi. Mi ricordo di Livio con la sua maestosa signorina che festeggiava, diceva ragazzi abbiamo vinto, vai così. E invece l'hanno preso in quel posto che non si può più dire, perché adesso con le pari opportunità non si può più dire che lo prendi lì. questa sera secondo me andrà comunque meglio, andrà comunque meglio e sono fiducioso. Beh, anche perché c'è l'Austria e non la Francia, diciamo. Esatto. Quindi non c'è nessuno che ci può prendere a capocciate? Attenzione, secondo me l'Italia ha segnato di nuovo qualcosa. No, secondo me l'Austria ha segnato, l'Austria ha segnato dal brusio. Esatto. No, questo no. Allora vediamo. Tanto lo scrivo, no, sì, 30 secondi. No, ragazzi, stiamo tipo 2 minuti indietro, sì, forse 3. No, 2 minuti no. Però 30 secondi. Lo sapremo, insomma, fra un po' quello che è successo. Refresciate nel dubbio. Mario Draghi ci manda i cuori. Mario Draghi. Mario Draghi, sì, ci manda, che ci ascolta tutte le sere. Mario Draghi, il nostro ascoltatore, ci manda i cuori e noi salutiamo con rimandaceli. Attenzione, contropiede i cuori dei mille colori, come senti? Forse è questo che si sa mangiare un gol. Ma è meglio mangiarsi un gol che subire. Meglio mangiarsi un gol che subire. Ragazzi miei. Bestemmie. No, non so, il portiere è uscito dal campo e è andato in panchina a prendere il pallone. È abbastanza banana. Io voglio già citato da Elio. Uyeye. Banane. Ne compro due. Così una te la mangi? Così una te la mangi. Lo scarpino. benissimo. Prova anche il cane, che anche veramente... il cane partecipa alla canzone. Devo dire la verità, che questa partita ci ha stremato come se fossimo in campo praticamente. Esatto. Ma non tanto per stare qui con voi carissimi ascoltatori di Runtime Radio e per aver parlato per più di un'ora e mezza, ma perché ovviamente fa caldo, fa veramente tanto caldo. Il cane fa sì, infatti. Ma perché si fa presto a fare il radio DJ, che fai un intervento di 3 minuti, 12 ogni 40 minuti, minuti di musica, esatto. 8 canzoni da 8 bravo, minuti ciascuna, bravo, e poi bravo. Dici stai fresco. Come bravo, ragazzi, ma facciamo così allora, no? Apriamo una petizione su change.org in cui chiediamo che mondiali ed europei si giochino in inverno. In inverno. Ma durante le vacanze di Natale, tutto una botta. Durante le vacanze d'inverno, anche a grande inverno io le farei. Anche a grande inverno. Ma scusate, ma poi King's Landing, ma se vinciamo possiamo andarci a far il bagno nella Fontana dei Trevi? No. Ma sai quanto è zozza quell'acqua? Quindi COVID. Sì. Io ho già fatto nel 2006, sì, quindi non c'era e ne porti ancora i segni, vedi. Non ce l'hai mai raccontato. Infatti. No, come non ve l'ho mai raccontato? Infatti non l'hai mai raccontato. Poi sfottato a tuo marito che racconta sempre la stessa roba. Ma lei è peggio, cioè lei è da sempre stata così. E pensai che c'ha 10 anni meno di me, è quella la cosa inquietante. Ha capito, ma l'hai invecchiata insieme a te, l'hai contagiato. Esatto, l'ho infettata di vecchiaia, già ragione. Sì. Perciò lei frequenta Girasole per ringiovanirsi. Vabbè, allora che culo. A un certo punto cercavo di capirne il... Sì, non so, sembrava tipo una gara. Era come mai, ma a ruba bandiera stavano a giocare. Ha cambiato lo sport. Però vabbè, comunque, attenzione. È vero. Color, scacchi. Ecco che serviva la bandiera, raga. Ma l'ho capito. Gliela devi rubare. Attenzione, dai. Che l'Austria sta manovrando un'azione. Vai, Sbano. Non lo so, un attimo, perché leggevo Schuren dice è successo qualcosa, ma ci lascia così con questo dubbio. Sì, perché lui, se praticamente Schuren si... Poi forse intendeva una cosa a seconda di quelli, a di vicini che si uccidono. Che succede nei vicini. Quello che è successo è che l'Italia ha fatto 2 gol. Poi non so, magari, perché io non posso sapere a che punto sei rimasto. Ma soprattutto quando l'ha scritto anche. No, l'ha scritto. Attenzione, adesso. Contropiede. No, vabbè, ma stava da solo. No, ma perché non vogliamo infierire? Ma 2 infatti, sono sufficienti. Si tratta di sportività. Ma guardi, ma cloaca la lumaca là, come cazzo si chiama? Andromaca. Sì, infatti sta. Andromaca, che cosa fai? La lumaca. Vi ricordo, adesso arriva, forse si è addormentata un attimo. No, abbiamo spento il microfono per vi ricordo che c'è questa questione per cui l'Austria confina con l'Italia, quindi è meglio non farli innervosire poi troppo, perché poi sono fastidi diplomatici, su quelle guerre, capito? Poi ma ci chiudono il Brennero, quindi è meglio. Sti cazzi, abbiamo la Svizzera. Passato remoto di Brennerai, che no ma sti passato remoto di no, ma mastica è presente indicativo. Ah, mastica. Perché dovremmo ucciderti se ci dici che Di Lorenzo fa una bella azione? Tu lo dici, noi te crediamo. Ovviamente non abbiamo. Infatti poi quando uno guarda con gli occhi dell'amore. Anche perché non è che ti possiamo uccidere adesso. Ti possiamo uccidere fra 2-3 minuti, quando avremo visto anche noi l'azione. Ovviamente sì. E poi avremo anche valutato l'azione, esatto, quindi, come insomma, gente che ci capisce, no, ma qualcosa. Penso che intenda che chi ci sta spoilerando. Ah, vabbè, ma non ti preoccupare, noi ormai lo spoiler. Ma noi viviamo di spoiler. Cioè, praticamente i vicini di casa ci stanno a spoilerare tutta la partita. Quindi. Nel frattempo la mia diretta è scoppiata, quindi io non so. Non è lo spoiler il film stesso? Non lo so, può darsi, sì, infatti. Ma sicuramente lo spoiler è il film stesso. Ho dovuto far ripartire la diretta, quindi 47 minuti di pubblicità. Quindi se voi sapete che succede, ditelo voi. Niente, dice Melanie che fa play e stop tra noi e la partita. Quindi... Ma no, devi ascoltare vabbè, noi. Ma che cazzo? Un tumore al cervello facendo così. C'è gente che c'è morta, infatti. Comunque nel frattempo mi si è impallato tutto, quindi devo ricaricare gli assets. Complimenti. Tanto bastano 4-5. Per fortuna ci sono gli assets live che coprono il buco. Il buco viene coperto mentre l'Italia parte di nuovo al galoppo. Mi si è bloccato tutto e devo ricaricare al tuo ciclo col monociclo si può giocare. È il bonus monopattino, monopattino è il ciclo elettrico guidato da tutti i rosari della provincia. È il bonus monopattino. Il bonus monociclo col sellino riscaldato è stato ritirato perché venivano le emorroidi. Emorroidi. Ora hanno il monociclo col sellino raffreddato indicato per l'estate. Estate. Tutti al mare col monociclo raffreddante col seggiolino ad incastro. Il tuo monociclo a incastro su Amazon Pride. Bravi, bravi, bravi. Non so che cosa c'entra tutto questo, però è un momento di musica importante. Attenzione, spoiler di Olivia, l'Austria ne è riuscita a fare uno. Eh sì, questo, su questo calcio d'angolo, secondo me. Adesso... Eh sì, temo di sì. Dai, temo di sì. Attenzione. Anche perché diciamo li vedo proprio che è un po'. Porta l'imbattibilità di Donnarumma. Persa l'imbattibilità a di cazzo Donnarumma. Di cane, cioè, sono, anche il Donnarumma è debole sui tiri molto angolati no, sull'area. Cioè io ragazzi non veramente vabbè, non voglio parlare di questa cosa, non mi interessa. Comunque forse è un bug. Come l'Italia ha preso due gol di merda fondamentalmente. Solo no, che, uno ce l'hanno levato, ma solo che uno ce l'hanno graziato e quest'altro invece. Forse cioè, però, cioè, credo che ci sia. Aspetta, un bug. Aspetta, mi dicono che Draghi sta ritelefonando. Sì, no, non credo che possa in questo caso. Perché Italia Viva chiedeva da tempo che venisse annullato questo gol, quindi adesso vediamo che no, succede. Comunque, no, raga, questo è un bug. Questo è un bug, me lo ricordo, c'era pure su PES qualche ah, anno fa. Sì, che sì, sono, Madonna, sui tiri angolati cazzo è passata sta palla, ragazzi. Cioè. Siamo veramente in ritardo, ci dice qualcuno. Io. Sì, ma noi l'abbiamo detto mille volte. Sì, siamo molto in ritardo. Da quando siamo nati, però. Noi ce l'abbiamo in ritardo. Non mica siamo svizzeri noi. Cioè, noi siamo in ritardo per natura. Insomma, quindi. Intanto sentiamo un po' che cosa fa la nostra macchina. Sta sgusciando, sta quello che fa l'umaga. Sta cercando di scappare. Secondo me ha capito o forse che ha scassato. Forse sta per raggiungere un altro filo d'erba. Non lo sappiamo. Io direi che. Intanto, Alex, che è arrivato in chat in diretta, dice lo streaming Rai sta trasmettendo i mondiali del 2006. Sì, mi dava un'idea del già visto. Evviva! Allora vado a fare il bagno nella fontana di Trevi. Ma dai, mica sarebbe mica la finale. A voglia a te ancora. Senti Sbano, dici un po' a che minuto siamo. Allora, quello vero non ne ho la più pallida idea. Noi siamo al 115esimo minuto. Siamo tra il 114esimo e il 116esimo minuto. Dobbiamo resistere 5 minuti. 5 minuti. Più o meno 5 minuti con quest'Austria la vedo abbastanza aggressiva. Ancora col calcio d'angolo, questo è lo stesso di prima. Il che però guarda, tutti guarda, se ne facevano due uguali era spettacolare. Tutti che si muovevano piano piano, proprio, cioè, esatto. Ragazzi, c'è una cosa che a causa del fatto che in campo c'è Chiesa, Mancini non ha potuto dire ma solo pensare, perché è uno sguardo veramente secondo parlante. Secondo me lo dicono uguale, comunque, mentre Donnarumma Mancini mi dà l'idea di essere uno che si trattiene. Sono stati abbastanza eloquenti perché non c'è la possibilità di mettere il censured davanti alla bocca in tempo reale, di solito si mette solo quando fanno post produzione. Io devo dire che non ascolto, non seguo molto il calcio e tutto quanto, però a volte mio marito ascolta le partite, anzi segue le partite senza la telecronaca e si sente dal campo volare. Beh sì, tutto. Soprattutto quest'anno che non c'era il pubblico, quindi sì, veramente si sentivano proprio le cose quelle che non avremmo. Diciamoci mai la verità, l'utilizzo del pubblico è semplicemente per coprire le bestemmie esatto, che vengono dette in campo, insomma. Esatto, infatti diciamo che la televisione inglese nei primi tempi aveva messo l'audio finto del pubblico, no? Proprio per coprire. Insomma, invece quelli di Sky, ecco, sentiamo cosa dice, porca che poi faccio notare che le bestemmie ce le abbiamo solo noi, di conseguenza all'estero questo problema potevano anche non porselo, se lo sono posto. No vabbè, ma magari non la bestemmia, però, no, però voglio dire, chissà che bestialità che dicono, cioè, esatto. Il fucking, i famosi fucking, cioè magari frasi razziste, improperi di vario genere, cioè, esatto. Oh, ragazzi, io prego gli amici in chat, che so che ci tengono alla nostra sanità mentale, quando finisce ditecelo così, se facciamo, mettiamo l'anima in pace, esatto, ci facciamo qualche minuto meno teso, l'anima in pace, che in che minuto sta nel mondo reale? Io sto a 117esimo minuto, secondo me in chat stanno anche per dirci che è finita 117 giusto. Comunque, adesso visto io che possiamo, quindi la prossima volta 118. Io la vedo su Sky. Su Skype, la vediamo. Possiamo dire su Skype. Sì. Comunque, l'anima in pace, che ricordo che era un singolo di Marco Bianchi prima che diventasse Le Stupide Creature. Sì, era un singolo, nel senso che è stata suonata una sola volta. E anche con una singola nota. No, quello no. Attenzione, la canzone mononota erano i competitor. Sì, no, ma comunque sono arrivati abbastanza tardi. No, quel brano era un singolo perché è stato suonato una volta sola e basta. Cioè, okay. In realtà non ha avuto un'altra storia. E non ve ne è memoria. Esatto. Non so neanche se si può suonare una seconda volta. No, non si può. Diventa un secondolo. Infatti. Allora poi comunque siamo al 119esimo ufficialmente, sì, sì. Quindi c'è ancora ma tempo. C'è anche il recupero, c'è il recupero nei tempi supplementari, sì, sì. Pure teoricamente no, a meno che non è successo qualcosa. Ragazzi, questi ci stanno a prendere a pallonate in questi ultimi 3-4 minuti, quindi pregate. Ragazzi, dai, non facciamo scherzi, ci sono che i tifosi italiani che stanno pregando, sì, è vero. C'è gente che io sento fuori i rumoreggiamenti, brutti rumori, ai ai ai, allora. Sento mormorare e non è giubilio, quindi la chat si è ammutolita, io sono preoccupatissimo. Potrebbe essere anche un 3-1 sventato. Secondo me notizie dal futuro. Secondo me l'Austria ci ha dichiarato guerra. Lo vogliono dire. Lo sai che devi farmi, che secondo me adesso tu t'affacci e scrivi che è successo. Chi ha fatto palo? Che sento gente che urla di fuori, quindi sai, qualcosa sarà successo, anche insomma. Uno stupro magari. Ma sì, ma perché attenzione. Oh, no! Questo vale quasi mezzo, quindi siamo 2,5 a 1. 2,5 a 1. Il 120esimo è scoccato ufficialmente. Grande sofferenza. Allora, raga, è grave perché siamo al 119esimo abbondante. Non ci dicono che è finita, quindi o c'è del recupero. C'è, o beh, un po' del recupero c'è sta. O stanno a fare strozzi. Oppure sono andati. Amici, no? Della chat. Un minuto di recupero. Attenzione, contro via dell'Italia. Cioè, non siamo vorrei scoprire. Attenzione, contro via dell'Italia. 3 contro 3. No, ma vado a coglione. Non vorrei scoprire che stiamo facendo la diretta per nessuno. Ma che, beh, chi se ne frega, tanto la diretta la stiamo facendo per noi stessi. Sto cercando di farli sentire in colpa. Bastardi. Perché ve ne siete andati? Un minuto di recupero, attenzione, un minuto di recupero. Minuto di recupero, Ma attenzione. Come un minuto di recupero? No, pardon, sono già al 121esimo, voi non lo sapete. Oppure c'è un minuto di recupero. Secondo me abbiamo recuperato, siamo finiti un paradosso temporale, abbiamo recuperato un paio di minuti di differita, perché sennò non si spiega. Ciao, un minuto di recupero, ecco. Ho capito, ma in chat dovrebbe essere finito da due questo minuto. Vabbè, ma non guarda la chat, magari stanno festeggiando oppure se ne sono. No, Olivia ci ha avvisato adesso del minuto di recupero, quindi un minuto di recupero, Olivia. Tanto gli austriaci stanno lasciando lo stadio. Ma perché c'è sta il gladiatore? Ma sto centurione qua, un po', come dire. C'è sempre un centurione. Massimo, cassa! Direi che è finita. È finita! L'Italia è passa il finita! Turno! L'Italia! Gol! Dice Shuren, dice gol. Ah, gol addirittura. Vediamo. Io pensavo le trombette. Secondo gol. Le trombette. No, fischio gol, finita. No, allora Shuren, ma che cazzo dice? Ma che te dobbiamo venire a meno a casa? Vabbè, comunque, fermi e rimettiamo un attimo di calma. Quindi, la partita finisce qui. L'Italia batte l'Austria 2-1. Qui ancora no. Esatto, infatti io la sto ancora guardando. La partita, però, facciamo finta che è finita e passa ai quarti di finale di Euro 2020, dove, insomma, venerdì. Quindi per la tristezza di Simone Pizzi, che venerdì dovrà fare una live probabilmente, esatto. Probabilmente venerdì o sabato, ancora non si sa. No, Mancini venerdì, esulta. Venerdì ci sono i quarti. Sì, venerdì e sabato ci sono i quarti. Anche sabato. Quindi adesso... Credo che l'Italia, essendo nella prima parte del tabellone, giocherà venerdì. Ok, perfetto. Allora, prima di andarcene, Marco, è ora di arrivato il momento della verità. Quantistica. Esatto, quantistica. Allora. Vai, guardi, parliamo di questa cosa della lumaca. Dai, però sbrigate, guardi, lo sai che la lumaca si fa sbrigare. Ecco, sto aprendo la scatola. Ecco, bella. Allora, qua. Ok, che vedi? Che vedi? C'è sta un cazzo dentro questa scatola. Cioè? Ma cazzo è andata? È uscita? Quindi è scappata? Marco, io ti avevo detto che alle 23 dovevo darle ai cinesi. Aspetta, Michela, aspetta, attenta, Michela, fermo. Cazzo, Michele! Ma porca puttana! Ti ho detto, stai fermo. Capite che sei stanca, Michele? Era un po' d'attenzione. Dovevi rimanere seduta, no? No, raga, ma guarda là che schifo. Poi tu. Stavo correndo per andare a dormire. Stavo correndo per i prati. No, poi c'è, cioè, raga, c'è. Cioè, aveva previsto giusto. Ce l'ha azzeccato. No, già, una volta che c'è. Porca miseria. Cioè, aveva mangiato due fili d'erba blu e uno. Vabbè, rosso. Basta questa storia degli animali, perché veramente ogni volta tanto gli austriache che si anche perché secondo me il WWF prima o poi ci viene a cercare. Infatti. No, ma tanto scusate, posso fare notare una cosa? Io c'ho un'idea. Attenzione, seguite il ragionamento. Sì. Ci sono quarti, semifinale e finale. Finale. Io dico tre nomi. Nomi? Tre nomi. Nomi. Gamera, Godzilla. No, Scozia. Sto cazzo. Ah, vedi. Ah. Okay. Io però non vorrei dire niente. Proprio, non vorrei dire niente. Fermi, gatte. Fermi. Non vorrei dire niente, ma Scozia sta mangiando la lumaca. Quindi potrebbe aver preso il superpotere della previsione. Potrebbe aver incorporato la sua anima. Anche. Quindi la settimana prossima facciamo indovinare il risultato. Dai. Carissimi amici di Runtime Radio, quindi finisce qui questa partita 2-1 per l'Italia, l'Austria se ne va a casa, insomma, combattendo anche una partita onorevole, considerando insomma che abbiamo fatto un culo tanto. Austria è composta da giocatori che giocano in Bundesliga, in Premier League, quindi insomma non era proprio una squadraccia dell'ultimo angolo. Detto questo, noi ci aggiorniamo sui soliti canali runtimeradio.it, ma soprattutto dirette Runtime su Telegram, dove vi informeremo di quando ci sarà insomma la semifinale, i quarti di finale, scusate, dell'Italia, quindi la prossima partita, che tra l'altro domani sapremo anche qual è l'avversario. Detto questo, io ringrazio e saluto chiaramente Marco Gualdi. Ciao, sono un po' triste perché avevamo trovato finalmente l'animale. Ma veramente pure gli altri c'avevano. No, beh, no. Guardi, è inutile che mi fai sentire in colpa. Vabbè, no, ti sei mosso, non è che l'hai fatta apposta. Cioè, bene. Ringraziamo e salutiamo Walter Sbano. No, che salutiamo? Io resto per Runtime by Night, no? No, non c'è Runtime by Night. Alla prossima, grazie di avermi ospitato. Buonanotte. Ringrazio e saluto Michela De Paola. Grazie a tutti, ragazzi. E continuate a studiare le regole del calcio, perché un giorno vi torneranno utili. Quando non troverete lavoro, non avrete soldi, voi andrete a cercare un lavoro e dite: io so le regole del calcio. Le regole del calcio, secondo Michela. Benissimo. E vi apriranno tutte le porte. Ma io penso ci scriveremo un libro su questa cosa. Ringraziamo anche Carlo Sant'Agostino, che abbiamo ascoltato in teleconferenza, in quello che è. Ringraziamo il dottor Pippo Campo, che anche lui ha partecipato tramite collegamento, sempre insomma un contributo prezioso. Ringraziamo Francesco, Lobby Frontali di Muro. E vabbè, quindi l'Italia con la schiena dritta si porta a casa questa vittoria. Ripeto, dritta. Con la schiena dritta. Dritta, dritta. Tacciroli. Ma sono curioso di capire con chi giochiamo la prossima volta per vedere se ci dobbiamo inginocchiare. O Portogallo o Belgio. Loro si inginocchiano. Belgio quindi, sicuro. Insomma, è una storiaccia. Ringraziamo e salutiamo le stupide creature. Ciao amici. Bravi. Buonanotte a tutti da Simone Pizzi, Runtime Radio è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.